Ciao amici di Runtime di Ludico Forum, siamo qui per ascoltare la seconda parte di una live realizzata sul canale di Pixel Deb con la conduzione di Deborah, ovviamente, perché insomma essendo suo il canale, essendo sua la trasmissione, essendo sua l'idea, è giusto insomma che è normale che insomma sia Deborah a condurre la trasmissione. Io sono stato ospite, mi ha fatto veramente molto piacere, ci siamo divertiti ed è stato anche interessante le discussioni che sono uscite fuori, a volte anche extra, sempre contestuali, ma comunque hanno portato a degli approfondimenti anche su tematiche connesse ovviamente alle cose di cui abbiamo parlato. Vi ricordo di andare su YouTube, di cercare Pixel Deb come canale con l'H finale, giusto perché magari Pixel Deb non la sentite l'H finale, quindi andate su YouTube, cercate il canale di Pixel Deb, iscrivetevi, attivate la campanella per ricevere le notifiche, guardate i video, mettete like, commentateli e condivideteli, così aiutate il canale a crescere il più possibile e questa è sempre una cosa positiva, insomma aiutare e sostenere comunque una realtà che comunque in qualche maniera consideriamo amica, insomma diciamo consideriamo insomma con la quale ci piace collaborare. Detto questo, buon ascolto di questa seconda parte dove parleremo appunto delle avventure dal 2016 al 2020. Buon ascolto, ci vediamo al prossimo episodio di Ludico Forum. Ciao! Runtime Radio presenta Ludico Forum. Buonasera a tutti ragazzi, eccoci di nuovo qui con una bella livezza. Allora, lagga un po'? Sta laggando? A me non sta dando problemi. Gabriele, vedi se sta laggando per favore, perché a me non pare non dia problemi. Mo vediamo un attimo la regia che dice, se no Luca prova un attimo a refresciare la pagina, perché a me non sta laggando onestamente. Fammi sapere poi. Allora, dicevamo, buonasera a tutti ragazzi, eccoci di nuovo qui con una bella livezza. Allora, questa sera vedremo le avventure che non abbiamo visto l'altra volta insieme a Simone Pizzi, che è qui con noi. Buonasera Simone. Buonasera a tutti. Allora, ciao raga. Come fanno gli youtuber, no? Ciao raga, belli. Bella raga, siete caldi? Siete pronti? Esatto. Però questo è un po' più DJ forse. E vabbè, comunque, dai, qualcosa del genere, dai. Bella raga. Bella raga. Allora, dicevamo, quindi, siccome col mitico Simone l'altra volta 10 anni di avventure che poi sono state già scelte, abbiamo fatto anche una cernita della cernita, però la cosa si è dilungata perché abbiamo approfondito bene ogni avventura, alla fine invece di 10 anni ne abbiamo fatti 5, quindi approfittiamo questa volta di farne altri 5, quindi dal 2016 al 2020, giusto? Eh sì, perché abbiamo chiacchierato. Abbiamo chiacchierato, però abbiamo approfondito bene i giochi di cui abbiamo parlato, insomma, dando le nostre opinioni, poi magari ci siamo collegati ad altre cose, poi magari qualcuno in chat ci ha anche suggerito qualche altro gioco simile, eccetera, eccetera, quindi è stata una serata interattiva e interessante, insomma, quindi questa sera facciamo il bis vedendo quest'altra metà del decennio. Allora, come va Gabriel? Sta laggando? Gabriel? Non lo so, mi sa che sempre sta laggando lui, insomma. No, non sta laggando, ok, perfetto. Guardando l'altro canale. Perché... è lui che lagga sempre, sì. Luca, prova un attimo a refresciare, vedi un attimo. Intanto, buonasera a Jimmy Romero, ciao, benvenuto. Mi manda Runtime e Mr. Zero. Ah, vedi, buonasera, grazie. Benvenuto, grazie di essere qui. Allora, approfittiamo subito, quindi, per parlare di Runtime. Simone, raccontaci un attimo di Runtime. Sì, Runtime è un... insomma, risponde al sito runtimeradio.it oppure andando su Spreaker, che è un aggregatore di podcast, e cercando, ovviamente, nella sezione ascolta con la lente Runtime Radio, è praticamente un aggregato di podcast di vario genere, prevalentemente tecnologia. Una volta era quasi solo tecnologia e videogiochi, oggi c'è musica, politica, attualità, un po' di tutto, insomma, quindi in linea massima è un concentrato di contenuti, ecco, diciamo così, che poi si è trasformato piano piano in una web radio che ci tiene occupati 24 su 24 e così a sbafo, perché come si dice, tutti i progetti che non portano guadagno sono fatti per passione, insomma. Esatto, ne so bene qualcosa anch'io, insomma. Qualcosa anche tu, lo so infatti. Però raccontiamo anche dell'esperimento che abbiamo fatto la settimana scorsa, è stato molto interessante. Molto interessante e soprattutto anche divertente, tutto sommato, molto. Perché si fa un gran discutere insomma, delle implicazioni dietro le intelligenze artificiali, in particolare dietro ChatGPT, e noi ovviamente rispettando un po' tutte le polemiche, abbiamo detto vabbè, indipendentemente da quello che pensiamo o non pensiamo, abbiamo voluto fare un esperimento, cioè cercare di capire se ChatGPT può essere un buon master all'interno di una partita, di un gioco di ruolo come Dungeons and Dragons o qualsiasi altro tipo di situazioni. Quindi abbiamo dato un prompt di comandi abbastanza avanzato con tutta una serie di regole, gli abbiamo dato anche un setting narrativo e poi abbiamo fatto in modo che lui andasse insomma per conto suo, che creasse e generasse ovviamente la partita. E devo dire che al netto di insomma di limiti che poi alla fine oggettivamente sono usciti fuori insomma di questo tipo di cose, è stato comunque interessante vedere come cercava di ricollegare un po' tutte quante le cose e il fatto che comunque rispetta sia le regole che i valori dei personaggi, e questa è un po' la cosa più importante, soprattutto la forza di Deborah. Esatto, che... io avevo una forza discutibile, ma in verità tutto il mio personaggio era discutibile, anche avevo un'intelligenza discutibile e roba simile. Il caso tutto sommato, diciamo, era un personaggio un po' triste, e però obiettivamente Simone mi ha fatto alzare una cosa molto pesante e ChatGPT ha detto che io non riuscivo a farlo perché il mio personaggio non era abbastanza forte per alzarlo. Quindi onestamente a me ha colpito in positivo, perché ci siamo, oltre che ci siamo divertiti, ha creato anche una storia con colpi di scena, ha capito delle sottigliezze che io avevo detto a voce a Simone, ma in qualche modo ChatGPT, da quello che poi abbiamo scritto, ha compreso queste sottigliezze. Quindi onestamente è stata una serata divertente, un esperimento interessante. Sì, interessante, noi poi lo replicheremo, ma se qualcuno è interessato lo trovate sul canale YouTube di Runtime Radio, perché Runtime Radio c'è anche un canale YouTube dove buttiamo cose a caso, diciamo così, e che tra i vari contenuti a caso c'è questa live che abbiamo fatto con Deborah e Francesco Di Muro, e insomma, vabbè, poi ne faremo altre più in là, cercando di essere sempre più strutturati e più evoluti, insomma, da questo punto di vista. E c'è pure la mia brutta faccia, perché abbiamo fatto con le webcam, ahimè. Vabbè, ma eravamo tutti dal nostro punto di vista, chi è inquadrato male, chi era messo un po' storto, chi andava a tre fotogrammi al secondo. No dai, alla fine siamo bellissimi. Quindi, siamo bellissimi, bellissimi. Siamo bellissimi, esatto. Allora intanto buonasera a Simone. Ciao Simone, che dice? Come butta da questi puntini pizzi? Vedi, fai i giochi di parole, Simone. Io qui siamo l'umor inglese, insomma. L'umor inglese sottilissimo proprio. E poi Luca dice che si è sistemato, quindi non lagga più, a posto, benissimo. Meno male, meno quindi male. Ok, quindi diciamo adesso parliamo della ciccia, perché qua sì, abbiamo da parlare anche stasera, sempre comunque una cernita anche di questi 5 anni, perché anche se ripeto e continuo a ripetere questa cosa all'infinito, tutti dicono che le avventure grafiche sono un genere morto, bla bla bla, eppure ne continuano a uscire sempre un sacco, quindi... E non solo proprio grafiche, però avventure testuali, non testuali, scusa, visual novel, sperimentali, quindi vediamo un po' tutto il tipo di avventure. Allora, quindi passiamo a Steam come l'altra volta e iniziamo quindi dal 2016. E nel 2016 iniziamo con uno che si chiama Agatha Christie, probabilmente questo lo conoscete, The ABC Murders. Intanto buonasera ad Alberto Pasotti, benvenuto Alberto, buonasera, stiamo vedendo le avventure grafiche e non solo grafiche, diciamo, dal 2016 al 2020 in compagnia del mitico Simone Pizzi. E no, buonasera sì, anche a Nico. Possiamo dire avventure grafiche e giochi narrativi derivativi dall'avventura grafica. Sì, esatto, alla fine, diciamo collegati insomma al mondo delle avventure grafiche, però non per forza punta e clicca, diciamo, ecco. Quindi iniziamo da questo qui di ABC Murders, anzi ho imparato insomma dall'altra volta che quando c'è il video mi hanno detto insomma di ingrandire un pochettino, così lo vedono anche meglio il video. Allora io questo l'ho giocato in verità qualche anno fa su PS Now, quando avevo ancora il PS Now, e ho detto vabbè, sta lì insomma, lo provo, anche perché a me Poirot e Agatha Christie mi piacciono sempre tanto, quindi vedo i film, leggo i libri e gioco ai videogiochi. Diciamo, per me sono un po' delle bestemmie i film, quelli nuovi che stanno uscendo ultimamente, perché sono troppo moderni, fanno determinate cose che a me fanno un po' storcere il naso, insomma, confronto a quelli storici e classici. Però ho visto anche quelli, guarderò comunque anche Assassino sul Nilo, che uscirà tra qualche mese, mi sa, se non sbaglio. Anche se insomma un po' così, perché sono troppo moderni per i miei gusti. Allora, questa avventura, vabbè, è carina, obiettivamente a me è piaciuta, forse non lascia il segno. Ho giocato ad altri giochi di Agatha Christie che secondo me sono fatti meglio, tipo quello di Poirot che abbiamo fatto sul canale, che hanno adesso da poco parlato dell'uscita del secondo episodio, che se non sbaglio uscirà ad agosto, avevamo detto, se non erro. Sì. Però questo qui, i disegni sono molto carini, i casi alla fine sono stati anche simpatici da fare, sono comunque facili, classica cosa dell'ispettore Poirot che comunque sente i testimoni, guarda la scena del delitto, poi collega le cose e riesce a capire chi è il colpevole. Quindi onestamente, secondo me questo è un gioco carino, soprattutto dal punto di vista estetico a mio avviso, e lo consiglio, insomma. Comunque, quando sono giochi di detective, alla fine sono sempre bellini, e questo non è da meno, insomma. E il gioco è anche in italiano, questo qua, quindi volendo lo trovate anche in italiano, ragazzi. C'è anche una demo, poi, se lo volete provare. Tu, Simone, certo. Cosa dici di questo? La demo a 10 anni di distanza fa un po' specie. No, allora, io l'ho giocato e devo dire che... Allora, i giochi di Poirot secondo me rischiano di soffrire dello stesso problema dei giochi di Sherlock Holmes, no? Che poi alla fine dovrebbero essere strutturati dal punto di vista investigativo, invece finiscono ad essere abbastanza guidati. Allora, The ABC Murder secondo me c'è questo di problema, cioè che alla fine di difficoltà oggettiva nel gioco non ci stanno, cioè nel senso il gioco è abbastanza lineare, scorre, però siccome che il setting è bello, a me piacciono proprio i personaggi comunque di questo tipo di letteratura classica, l'ho apprezzato molto. Esteticamente è bello, c'è ragione. Secondo me è un gioco che, se uno mi dice lo consiglio, perché è molto criticato un po' dai puristi dell'avventura grafica, e io in realtà invece, anche se ammetto che in effetti minimo insomma di ostacolo in più forse sarebbe stato opportuno, diciamo che invece io lo consiglio perché è bello, è fatto bene, secondo me è scritto anche bene, bello, mi è piaciuto. Sì, però non lascia il segno, come hai detto te. Sì, nel senso, secondo me è gradevole mentre uno ci gioca, però poi è dimenticabile. Cioè, nel senso, io obiettivamente l'ho giocato, come ti dicevo, un bel po' di anni fa ormai, quindi mi ricordo che mentre l'ho giocato mi è piaciuto, non è che mi ha appassionato, mi è piaciuto, però obiettivamente nel mentre l'ho un po' rimosso, cioè non è che mi ricordo mo i casi, non mi è rimasto impresso qualcosa, capito? Mi ricordo soltanto che comunque è stata un'esperienza piacevole, anche perché il gioco poi non è lunghissimo, cioè non è lungo come può essere un gioco Frogwares, un saluto sempre alla Frogwares, che magari dilunga anche un po' la cosa, al di fuori che a me non mi fanno impazzire, quindi anche forse per quelli li trovo un po' lunghi, però secondo me la Frogwares ha anche un po' il problema di dilungarsi inutilmente, no? Come dicevamo anche su Telegram, stiamo per finire Sherlock Holmes Chapter 1, e il fatto che l'abbiano fatto tra virgolette open world in verità fa solo perdere tempo, perché comunque il gioco rimane lineare, però per andare da una parte all'altra della mappa, trovare il posto giusto, è un allungabrodo. Quindi questo gioco, secondo me, la cosa interessante è che non c'è l'allungabrodo, cioè c'è il caso, tu parli con i testimoni, guardi gli indizi, fai qualche enigma, perché c'è qualche enigma, risolvi il caso, c'è il caso successivo. Quindi è una cosa che onestamente apprezzo, il non allungare il brodo inutilmente. Sì, no, sono d'accordo con te. L'unica cosa che, da quello che mi ricordo, perché qui vado un po' a memoria, c'è questa cosa del famoso palazzo mentale, che oramai questi giochi di investigazione non possono prescindere, perché sennò si sentono male, e che poi alla fine è un collega ai punti, cioè nel senso che alla fine se sbagli non è che c'è una conseguenza o devi rifare una sessione o cosa, fino a che alla fine non ci azzecchi, ecco, diciamo così. Sì, questa è una cosa che obiettivamente tutti i giochi investigativi stanno facendo, anche l'altro che di Poirot che vi dicevo prima, anche lì c'è il momento pippe mentali, come lo chiamo io, no? Perché entri nella mente di Poirot, fai i collegamenti fra i vari indizi, le cose che hanno detto, e capisci, oh, è stato quello per questo motivo qui. Stessa cosa con Sherlock Holmes, tutti i Sherlock Holmes che abbiamo giocato sono così, e anche Murder Mystery Machine è così, e quindi praticamente ormai tutti i giochi investigativi hanno iniziato a fare questo collegamento delle pippe mentali. Quindi sì, sotto quel punto di vista questi giochi sono tutti simili obiettivamente, per ora non hanno trovato un altro modo più innovativo, insomma, per affrontare il caso, cioè sotto questo punto di vista sono tutti uguali obiettivamente, ecco. Sì, però, momento che collega le cose, no? Esatto. Ma comunque merita, perché meritano tutti, cioè anche tutti quelli che hai citato, secondo me meritano tutti, perché comunque tra setting, no? Questa cosa dell'investigazione. È una storia, è una buona storia, anche se magari tante volte c'è meno gameplay, oppure, come posso dire, magari potevano far di più da quel punto di vista, però comunque dice, me ne esco comunque con una buona storia, dai. Sì, sì, sì, no, questo comunque secondo me, cioè, infatti le recensioni comunque sono tante, cioè nel senso 1573, quindi comunque questo è abbastanza famoso, è stato anche molto giocato, e infatti sono molto positive, cioè nel senso forse molto positive per me tanto, io direi positivo, cioè io per me è un positivo questo, perché molto positivo mi rimane più impresso. Lo consiglio, sì. Ma tu hai scritto la recensione lì? Ho scritto la recensione? No, no, io non, tendenzialmente non le scrivo mai. Non le scrivi la recensione? No, okay. No, non ci penso proprio, onestamente, non mi viene in mente di stare a scrivere la recensione. E allora, intanto, allora Luca dice proverò a procurarmelo. Luca, se vuoi io c'ho la key, se vuoi te la posso dare tranquillamente, Luca, però mi devi far sapere dove ti posso contattare per mandartela, insomma, fammi sapere se ho su Telegram, su Facebook, mi scrivi sulla pagina del canale, insomma, in privato, io ti mando un messaggio con la key, fammi sapere, io la key se vuoi ce l'ho di questo qua, se lo vuoi recuperare. Poi intanto saluto anche Lili, ciao, buonasera Lili. Lui ha svoltato, dai, ci ha beccato pure la chiave. Luca ci ha beccato la key. Lili dice che ama i giochi investigativi, sì, anch'io, infatti li gioco veramente tutti. Simone dice anche Blacksad c'è il momento Pippe Mentali, sì, perché è un detective anche lui, e sì, quindi c'è il momento Pippe Mentali anche lì. E poi buonasera Retrowave, ciao, buonasera, buonasera, buonasera a Mattia, appena tornato da riunione condominiale, 1500 euro da pagare per la guaina del tetto, oddio mio, brutte le riunioni condominiali, portano solo guai. E una buonasera a Gianluca Sansò, benvenuto, che dice comunque le notifiche di YouTube non funzionano per un cavolo. Non ti è arrivato il fatto che c'era la live in questo senso qui? Sì, perché YouTube fa un po' come gli pare, a volte arrivano a volte no, anche se uno mette la campanella eccetera, i misteri di YouTube. Saluto Gianluca comunque. Ah, ok, ok, lo conosci, ok, ok, ok. Buonasera a tutti comunque, ragazzi. Quindi, ok, questo l'abbiamo enucleato, adesso io passerei a un altro gioco che ho giocato in verità sempre su PS Now, più o meno nello stesso periodo, questo invece l'ho giocato con Gabri, ed è un gioco italiano. Allora, io di giochi italiani in verità ne sto portando pochi in queste serate, perché io voglio fare una serata dedicata al videogioco italiano, quindi dai primi a quelli odierni, mi piacerebbe molto, è una live che ci tengo tanto a fare. E per vedere insieme un po' il nostro paese che cosa ha sviluppato negli anni in questo settore, quindi mi piacerebbe molto fare questa serata. Simone, se a te interessa sei sempre sì, benvenuto, insomma. Sì, no, non so se non sono la persona indicata per parlare dei videogiochi italiani. Non sei la persona indicata, ne hai giocati pochi, insomma. No, no, l'ho giocati, però secondo me in Italia si è sviluppato poco e non sempre bene, ecco, diciamo. Ah, questo, vabbè, quindi, ma noi dobbiamo essere obiettivi, politicamente adeguato, insomma. Vabbè, ma noi dobbiamo essere obiettivi, se è un gioco italiano però c'ha dei difetti lo diremo comunque, insomma, assolutamente, sì. Allora, quindi passiamo a questo qui che invece a me è piaciuto. Non so se tu l'hai giocato, è anche abbastanza famoso questo gioco, lo è stato anche all'estero, quindi questa cosa onestamente mi fa piacere, un minimo di orgoglio italiano. Sì. Praticamente The Town of Light è un gioco che parla di un argomento molto molto delicato, che è sempre collegato a quello che piace a me, quindi alla psicologia. È ambientato nel 38, è ambientato in Toscana, dove c'è stato veramente questo manicomio, e tuttora io ho visto dei video di come è abbandonato, e il gioco è fatto veramente bene perché è uguale, cioè nel senso, quando voi vedrete queste immagini così, queste qua dentro nel manicomio che è stato abbandonato a Volterra, se non sbaglio dovrebbe essere Volterra, il manicomio, sì. A Volterra, ok. Cioè io ho visto dei video di alcuni ragazzi che sono entrati dentro e obiettivamente identico. Quindi questi ragazzi che hanno fatto questo gioco, oltre a aver raccontato le cose orrende che sono successe dentro questo manicomio, e sono poi tratte da cartelle cliniche che sono state trovate in questo manicomio. Quindi la cosa veramente pesante di questo gioco, oltre all'argomento, è il fatto che racconta di quello che hanno fatto davvero a delle persone con tanto di nome e cognome là dentro. Quindi la storia è di questa di noi che in prima persona è una sorta di walking simulator, quindi non è proprio il mio genere preferito, come dicevamo l'altra volta. Però l'argomento invece è di mio grandissimo interesse, quindi l'ho trovato molto interessante, perché noi nel presente, quindi col manicomio ormai chiuso da tempo e abbandonato, entriamo ed esploriamo questo manicomio e tramite, come al solito, dei fogli eccetera che troviamo in giro, viviamo la vita che ha avuto questa ragazza che vedete qui in copertina, che si chiama René, e il suo racconto di quello che le è accaduto dentro questo manicomio. Quindi obiettivamente è un argomento molto forte, perché comunque le sono successe delle cose orrende, non soltanto come tra virgolette cure, ma anche quello che le hanno fatto gli altri dentro al manicomio, perché poi, come sempre, insomma, una ragazza giovane da sola, quindi è stata anche abusata, come potete immaginare, eccetera eccetera. Quindi diciamo che bisogna avere un po' di forza mentale per affrontare questo gioco, perché anche l'atmosfera è... questo senso di disagio, insomma, che c'hai durante tutta l'esplorazione di questo manicomio è comunque abbastanza inquietante, abbastanza tesa. Quindi io questo gioco lo consiglio tanto, perché affronta in maniera seria un argomento difficile, che poi, insomma, è vero, perché fino a un po' di anni fa, insomma, c'erano i manicomi, e quindi tutto quello che ha affrontato questa ragazza l'hanno affrontato chissà quante altre persone, insomma. Quindi io lo consiglio, ovviamente essendo un gioco di esplorazione, un walking simulator, le cose da fare non sono tante, è più vivere una storia, vivere un racconto di quello che è successo dentro questo manicomio. Però onestamente a me questo gioco è piaciuto. L'unica pecca che ho trovato, e anche Gabriel è d'accordo con me, è il doppiaggio della ragazza René, che onestamente secondo me è fatto male, cioè, nel senso, lei legge, diciamo, raccontando dal suo diario, insomma, quello che le è accaduto, e per me, insomma, io e Gabri abbiamo fatto un po' fatica a sentirlo, cioè si vede che è stato fatto da una persona che non è professionista in questa cosa. Quindi al di fuori di quello, il resto mi è piaciuto tanto. Tu, Simone, che dici di questo gioco? Conosci? Giocato? Sì, allora, loro sono stati molto coraggiosi per tantissimi motivi, a partire proprio dal doppiaggio, che secondo me è vero, quello che dici tu, assolutamente sono d'accordo al 100%, però come abbiamo visto tantissime software house italiane non doppiano in italiano i giochi, proprio perché costa uno sproposito rispetto a doppiarli in inglese, e perché comunque il ritorno dal punto di vista economico chiaramente è minimo da quel punto di vista, no? E quindi, diciamo, è una scelta che loro hanno fatto per renderlo, cioè per rendere omaggio anche il fatto all'italianità del prodotto. Quindi io l'ho apprezzato comunque come scelta, sebbene, come dici tu giustamente, devi accettare il compromesso del fatto che non stiamo parlando di una professionista. Dall'altra parte, anche perché loro hanno affrontato un tema che è quello, insomma, di quello che succedeva prima della legge Basaglia, quindi ovviamente la chiusura di tutti i manicomi, perché qui noi parliamo di Volterra, ma in realtà quello che succede in questa storia che noi vediamo, che comunque ricostruzioni reali, non è che si sono inventati più di tanto, e alla fine succedeva in tutti i manicomi in Italia. Anzi, io ricorderei sempre il fatto che alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento, dentro questi ospedali, chiamiamoli così, ci mettevano tutte le persone indesiderate, quelli che avevano problemi, quelli che non sapevano come gestire, anche delle famiglie per bene. Quindi tante volte andavano lì figli dimenticati che rimanevano lì per 30-40 anni e venivano trattati come le bestie, perché poi, insomma, abbiamo visto. Quindi e poi unisce pure l'aspetto dell'urbex, no? Dell'esplorazione di luoghi abbandonati, che è una mia grandissima passione, di cui ho trattato recentemente pure nel mio podcast. Perché effettivamente il grande lavoro di ricostruzione che hanno fatto è quasi maniacale, devo dire. Bravi, mi è piaciuto, devo dire, è una bella esperienza, e come dici te, poi c'è tutto l'aspetto psicologico, psichiatrico e drammatico che insomma ci tiene un po' lo stomaco, ecco, insomma, diciamo così. Ma tu l'hai visto il video in cui i ragazzi vanno dentro a far vedere com'è adesso? Sì, sì, beh, ma io i video urbex li vedo tutti, me ne perdo uno, quindi bene, quindi hai visto quanto è fatto in maniera certosina proprio, cioè identico. Assolutamente, hanno fatto veramente un grande lavoro questi ragazzi, e soprattutto, ripeto, parlare di questi argomenti secondo me è sempre importante, perché non bisogna dimenticare ciò che è stato fatto, assolutamente, anche perché poi è da poco che non si fanno più determinate cose, molto vicina in verità, quindi è così. Poi, come dicevi te, insomma, addirittura era una sorta di circo all'epoca anche il manicomio, no? Addirittura avevo letto che la domenica le famiglie portavano i bambini a vedere i matti. Dove andiamo oggi? Invece di andare a fare una passeggiata all'aria aperta, era come i fenomeni da baraccone, no? Che portavano la gente a vedere i fenomeni da baraccone, si facevano grandi risate, e addirittura si facevano queste gitarelle domenicali con i figli a prendere in giro i matti, praticamente. Andavano nei manicomi a farsi due risate vedendo questi che si comportavano così. E grandi risate per tutta la famiglia, insomma, quindi un periodo molto buio, a mio avviso. No, vabbè, purtroppo, allora, diciamo che in generale poi la legge Basaglia, adesso sto guardando un attimo perché comunque è da dopo la guerra, quindi anni 70-80, sì. Adesso non ricordo bene. Sì. Ma in generale la percezione e la sensibilità e anche la concezione scientifica di determinati problemi in realtà era molto limitata, no? Quindi prendevano i matti, anche magari persone che avevano problemi depressivi, li buttavano dentro a questi manicomi, dove poi alla fine a volte venivano usati pure per sperimentazioni, lobotomie, cose, cioè, quindi capite, certo, no? Certo. Cioè, immaginate sta gente che ha fatto sta vita per tutta la vita, perché c'è gente che non c'è più uscita da lì, quindi. Infatti, come dici te, non è che ci mettevano dentro solo i tra virgolette matti, ma tutti coloro che potevano comunque essere un peso per la famiglia, per la società, no? Cioè, nel senso, ce li buttavano là dentro, sì, lo facciamo per il tuo bene, e poi, come hai detto te, le famiglie stesse li abbandonavano lì per tutta la vita. E non è detto che ci uscivano, o se ci uscivano, chissà come uscivano, perché con tutti gli esperimenti, la lobotomia e le peggio cose che gli facevano, praticamente uscivano molto peggio di come erano entrati. Quindi ad aiutare, quanti avranno aiutati veramente? Secondo me nessuno alla fine, perché poi sono sempre stati trattati come bestie, cioè non sono mai stati trattati come pazienti ed esseri umani, ma sono stati trattati come un peso, come cavie da laboratorio, e quindi non c'è stato rispetto per l'essere umano, assolutamente. Quindi secondo me non è definibile se sono stati mai aiutati, no, perché non esisteva una vera cognizione della terapia. Cioè, capito? Ecco, comunque la legge è stata approvata il 13 maggio del 1978. Esatto. La cosa peggio è che anche a fin di bene la legge Basaglia poi alla fine ha creato pure un'onda d'urto, perché quando hanno iniziato a chiudersi i manicomi così, perché poi l'hanno chiusi, è tutta sta gente poi dopo non c'era neanche più un posto dove sta, quindi voi immaginate la transizione di questa fase quanto sia stata veramente ancora più drammatica per certa gente. Vabbè, dai, comunque. E pensiamo comunque che il 78 è molto vicino, no? Cioè, nel senso, comunque. No, io c'avevo 6 anni. Sono 45 anni. E quindi, cioè, fino a 45 anni fa il manicomio era una cosa normale. E quindi, se uno ci pensa, è veramente inquietante come cosa. Lobotomie e roba simili si facevano senza problemi, insomma. Abbastanza inquietante. Elettroshock. Sì. Allora, intanto leggo qualche commento. Non ho ricevuto notifiche sul cellulare, dice Simone. Sì, purtroppo, ripeto, YouTube fa un po' come gli pare. Nico dice: ora sono più attivi gli italiani. Sì, di questo fatti sono sempre molto contenta. E ripeto, nel mio piccolo cerco sempre di pubblicizzare gli sviluppatori italiani. Per fortuna che ti seguo su Instagram, così mi arrivano le notifiche in tempo, dice Luca. Ah, ok. Ah, se vuoi te lo mando su Instagram, Luca, la key, se la vuoi, fammi sapere. Gabri dice: le notifiche di YouTube fanno veramente schifo. Lili dice: vero, insomma, tutto quello che stavamo dicendo noi riguardo i manicomi. Gianluca chiede: il titolo del gioco si chiama The Town of Light. Buonasera Chiavaccio, ciao, buonasera, benvenuto. Nico dice: ci dovevano andare loro in manicomio. Beh, sì. Non è giusto prendere in giro queste povere persone, esatto, perché ripeto, non erano trattati neanche più come esseri umani, no? Ma erano un peso per la società. Ma se noi ci pensiamo tuttora, per quante persone quando qualcuno ha un problema di mente è considerato tuttora un peso. Per quanti? Cioè tuttora tutto ciò che è collegato alle malattie mentali non viene, o non viene preso seriamente. Ma no, ma dai, ma non ci pensa tanto, mo te passa, ma sei te che te butti giù, ma tirate su, ma non c'è niente, sta una crema. Oppure è considerato un peso. Quindi tuttora la malattia mentale è un discorso delicato, non approfondito e per tanti versi non preso seriamente, insomma. Quindi diciamo ci sono stati progressi confronto a 40 anni fa, sono d'accordo, però c'è ancora tanto da lavorare. Sì, ma comunque tu devi considerare che la discriminazione parte dalle famiglie stesse. Tu ad esempio prendi un paese, un piccolo paese di provincia, dove magari tu c'hai un figlio che ha anche neurologicamente dei problemi, non parliamo solo di aspetti psicologici, e magari te ne vergogni, lo tieni nascosto, capito? Perché comunque è così, cioè nel senso, queste cose vanno dette, è così, non è che sono cose così strane o assurde. Succede questo, e quindi la discriminazione parte proprio dalla base, proprio dall'elemento che invece dovrebbe aiutare di più, cioè certo, la famiglia. Certo, perché è una vergogna, no? Perché c'è mio figlio che c'ha qualche problema. Esatto. Certo, ma come chiudevano i disabili dentro casa, non li facevano vedere a nessuno, no? Perché era una vergogna avere un disabile in casa. E ripeto, per quanto ci siano stati tanti progressi, è vero, però c'è ancora tanto da lavorare, sia per malattie mentali che malattie fisiche che portano alla disabilità. Assolutamente, c'è tanto ancora da lavorare. Ciao Inet, buonasera, buonasera. Allora, Luca dice: io con le tecnologie non vado d'accordo, non so girarlo poi sul PC tablet. Ah, è perché ti mando direttamente il codice, quindi basta che metti il codice poi su Steam per attivarlo. Dimmi tu dove ti fa più comodo comunque, assolutamente. È arrivato Francesco che dice: mi collego e sento parlare di malattie mentali e disabili, vedi, è arrivato proprio nel momento giusto. Ciao, buonasera Francesco. Sto parlando di te, Francesco. Va bene, dai, abbiamo depresso tutti abbastanza. Eh sì, dai, siamo solo al secondo gioco. E siamo poi solo al secondo gioco, a posto. Allora, dai, passiamo al terzo. Questo qui, ragazzi, l'abbiamo giocato tutto sul canale, quando è uscito. Cathy Rain, quindi chi l'ha seguito probabilmente se lo ricorda, perché questo qui alla fine rimane impresso come gioco, secondo me, sia dal punto di vista grafico, perché ha una bella pixel art, sia perché comunque l'ambientazione è particolare, la storia è particolare, ricorda un pochettino, secondo me prende come un po' tutti i giochi con misteri, alla fine pieno tutti da Lynch. Parliamoci chiaro. Quindi ricorda un po' l'ambientazione di Twin Peaks, con questo mistero che piano piano si evolve, con questa ragazza un po' alternativa, che quindi invece mi ricorda un po', insomma, un personaggio alla Roberta Williams, tipo quella di Grey Matter, no? Che parlavamo l'altra volta. E Jane Jensen, scusa, ho sbagliato. Roberta Williams è l'altra, quella de coso, da Sierra. Jane Jensen. E quindi secondo me questo gioco ha un problema, a mio avviso. Se è il classico gioco che secondo me parte bene, incuriosisce, c'ha un mistero, tanti personaggi, tanti dialoghi, tante cose da fare, sì. Però al finale mi ha fatto proprio schifo. Ma proprio brutto, brutto, che sono rimasta tanto male, perché secondo me la classica cosa è che vogliono fare tanti, cioè sai, un po' alla Lost, no? Tirano tanto la corda, poi alla fine non sanno dove andare a parare e poi il finale è un po' una merda. E questo secondo me è successo anche con Cathy Rain, onestamente. No, no, non spoiler, sto soltanto dicendo che secondo me piano piano vanno a finire a un finale che secondo me è stato discutibile, onestamente. Te che dici, Simone, su Cathy Rain? Ci hai giocato? Ti è piaciuto? Beh, il finale è che la bambina muore poi, no? La bambina muore sempre. Dovete sapere allora, che per Simone qualsiasi finale è la bambina muore, quindi anche se non ci sono bambine praticamente. A me non devo dire, non sono impazzito questo gioco, cioè sì, come dici te, all'inizio, cioè, progressivamente mi sono distaccato, cioè nel senso che all'inizio mi interessava, mi era piaciuto, mi aveva anche intrigato. Il finale addirittura manco me lo ricordo, quindi pensa quanto e poi ma guarda, forse finito. È meglio con tuo ricordi, onestamente. Ma dopo me lo vado a vedere sul canale tuo, perché cioè, nel senso, comunque lo devo ricordare, oramai mi si è accesa la curiosità. E poi io non devo dire la verità, faccio un po' fatica con l'avventura iperclassica. A volte le gioco e mi piace giocarle, però dopo un po' mi stufo, perché andiamo avanti un pochino, cioè, però questa è tutta un'idea iper personale, cioè, nel senso, mm-hmm. Però so che è piaciuto, però lei non mi dispiaceva come personaggio, devo dire la verità, insomma. Sì, è un po' alternativa, no? Cioè, interessante come personaggio. Ma ripeto, secondo me anche la storia. Cioè, nel senso, io mi sono divertita comunque a giocarlo e a portarlo sul canale. Anche perché poi è stato tra i primi che ho portato alla fine come gioco. E onestamente, però, sì. Cioè, a lungo andare ha iniziato un po' ad annoiarmi e il finale poi sono rimasta molto molto delusa. Però, come dicevo anche l'altra volta, secondo me è difficile fare un finale che proprio ti rimane impresso, che non ti deluda, che non sia, oppure che non sia scontato, oppure che sia spiegato tutto bene. Tante volte il finale è la parte più difficile, non... difficilmente dico ammazza, sto gioco c'ha un finale figo, come avevo detto la volta scorsa con Tormentum, no? Che quello lì invece ti ho detto ammazza, quello c'ha un finale veramente bello. È una cosa che secondo me accade poco, quindi questa sì, classica avventura a punta e clicca e gradevole, gradevole per tanti aspetti. Sì, sì. Anche secondo me, sai, questi cerchietti con i primi piani dei personaggi ricordano un po' anche il primo Gabriel Knight, no? Che si vedono i primi piani della sierra, erano così, vero, è vero. E quindi è ispirato questo gioco, tutto quanto, però non lo so, verso la fine secondo me si perde tanto, onestamente. Sì, comunque sono d'accordo con te, poi volevo dire una cosa ma me la sono dimenticata. Vabbè, mo se ti viene in mente. no vabbè, ma evidentemente non era poi così importante, insomma. Comunque, vabbè, il gioco è in italiano, quindi senza neanche dover stare a tradurre lo potete giocare. C'è ancora una demo se la volete provare. E poi è uscita la Director's Cut nel 2021, che però da quello che ho capito in verità non è che cambi tantissimo. Se non sbaglio aggiunge qualcosa, ma non molto da quello che avevo capito. E ci sono alcuni miglioramenti grafici da quello che mi sembra di aver capito. Poi se tu hai il gioco base, in teoria ti regalavano la Director's Cut, però diciamo a me questo gioco mi è bastato una volta, quindi va bene, sì, così. Non dimenticare di giocarlo. No, non è un gioco di quelli che rigiocherei, come ho fatto tante volte con altre avventure che mi hanno colpito di più. Questo secondo me va bene una volta e basta, insomma, onestamente. Non... cioè, carino, ma basta. No, devo dire, cioè, alla fine ha fatto il suo, perché comunque all'epoca era piaciuto molto, io so, molte recensioni positive, insomma, è stato molto acclamato. Io mi sono divertito a giocarlo, mi è piaciuto, però poi alla fine ti ho detto manco mi ricordo come finisce, però è vero che sono passati un po' di anni, quindi, però è come dicevi te, ecco, quello che volevo dire è che poi alla fine il costruire un finale è roba da professionisti, siccome che molti magari non sono, cioè, perché a costruire una storia, a mettere strutture, sovrastrutture, mistero del mistero misterioso, sono buoni tutti, il problema è che poi tutti sti fili che tu apri li devi far tornare in qualche maniera. Devi farli tornare anche in maniera non scontata, no? Perché sennò fai il classico finale, trito e ritrito, oppure che l'hai capito a metà gioco e dici vabbè, ma questo sarà capito da mo', insomma. Devi anche fare un finale che abbia senso, che si ricolleghi al tutto e che magari possa anche stupire. Quindi obiettivamente non è facile. Non è facile. Allora, intanto saluto Vincent. Buonasera, Vincent. E Simone si ricorda di Katy Rain. Mattia non vede l'ora di prenderlo scontato, questo qui. E, sì, no, adesso sta a prezzo pieno. Sì, sta a 10 euro. Però comunque sì, mi sembra che quando fai saldi comunque lo trovi in sconto spesso, questo qua. Da Debora, ma scrivila sta recensione, scrivila, scrivi bello, mi è piaciuto. Bello, ma il finale è una merda, così scrivi. Ah, okay, va bene, sempre senza girarci intorno, insomma. Nico dice: giocato e finito, ma non ho gradito la parte finale. Vedi, neanche Nico il finale gli è piaciuto, sono d'accordo con te. Luca mi chiede se la key funziona anche sulla PS4. No, è soltanto per Steam la key del gioco, non per PS4. Lost al finale più schifoso di sempre, dice Mattia, ma è la serie migliore della storia. Il finale è un di più. Sì, no, il finale di Lost è veramente brutto. Sì. Ah, Lost, sta parlando di Lost. Sì, no, Lost, perché io avevo detto la classica cosa che tiri troppo i fili, poi non sai dove andare a parare, fai il finale brutto, no? E quindi penso sempre a Lost, capito? E poi Lost ha creato i mostri, ragazzi. Il problema è Lost, le prime due stagioni sono meravigliose, cioè per me, le prime due stagioni sono meravigliose. Poi a un certo punto, piano piano, continuano a mettere roba e poi tu lo sapevi che tanto tutta sta roba dopo andava... E poi vabbè, il finale, ragazzi, è qualcosa di insignificante. Cioè, boh, vabbè. Andiamo, non stavo parlando di Lost. Ci dobbiamo fare una serata per parlare di quanto è brutto il finale di Lost. Esatto, no, è quello che ha creato poi negli anni, anzi nel decennio successivo, perché poi Lost comunque ha ondata d'urto, ha generato mostri nel mondo della televisione, insomma. Quindi maledetto Lost in tutto questo. Maledetto Lost, sì. Mattia dice: solo i giappi sanno fare i finali con i giusti epiloghi, gli occidentali sono sbrigativi. Beh, a volte si tagliano molto corto, insomma, questo sì, è vero. È vero anche il contrario, che a volte i giapponesi in finale de dura un film intero, cioè nel senso, perché poi alla fine vedevano... Un saluto a Kojima. Cioè, esatto, no, per carità di Dio, però in generale non la finiscono più dopo un po', cioè nel senso... Kojima praticamente, anche il finale, solo il finale è un film a parte praticamente. Esatto. A volte è come se non avessero spazio sul disco e chiudono sbrigativamente, dice Chiavaccio. Sì, che è quello che stanno facendo anche con Sherlock Holmes Chapter 1 l'altra sera. Il caso che abbiamo fatto è stato a mio avviso esageratamente breve, infatti non si capiva chi era l'assassino perché abbiamo fatto ben poco e ho detto secondo me qui sta una taglia perché sta a chiudere il gioco, e infatti ho visto che in verità manca pochissimo a finire il gioco, quindi sì, quel caso che hanno fatto molto sbrigativo perché stavano a finire il gioco, hanno dovuto tagliare, quindi classica cosa fatta così, insomma, in maniera molto brutta. Finisce il budget a un certo punto, ragazzi. Sì, finisce il budget, magari anche le tempistiche, no? Oh, dobbiamo farlo uscire, sbrigate, finisci qua, taglia e basta. Però si vede, c'era palese, confronto agli altri casi è stato molto più breve, poche cose da fare, non si capiva chi era l'assassino, e quindi vaffanculo. Chiavaccio dice: un finale molto buono c'era il secondo Silent Hill. Ah vabbè, mo non mi ricordo il finale del secondo Silent Hill. Inspi ci viene a fare un saluto veloce. Inspi, buonasera, un saluto veloce a te. Vincent dice: nessuno è più basito, tutti sanno tutto. Gabriel dice: Lost si è perso. Oh, no! Posso chiudere? Posso chiudere? Buonanotte ragazzi, basta. Bello, bello. Dopo sta battuta triste di Gabriel. Jimmy ha detto: mai visto Lost? Guarda, se lo vedi non guarda l'ultima serie, per favore, fallo per tutti. Poi guarda le prime tre stagioni, bastano, poi a certo sì, punto sì. Dice, come finisce? Non fa niente. No, lascia perdere, è meglio per te. Guardate le prime stagioni e basta. Vincent dice: poi se lamentiamo di Evangelion. Ma lascia perdere, ma per carità, vabbè. A me mi triggerate quando dite, non so neanche che significa, però quando parlate di Evangelion proprio mi avveleno proprio. Luca dice: Kojima è un mito. Simone chiede: chi è Kojima? Kojima ad esempio è il creatore di Metal Gear oppure di Death Stranding, che a noi piace tanto, vero Simone? Death Stranding. Invece Metal Gear. No, sì, neanche io vado molto d'accordo con Kojima, onestamente. Il problema è che lui chiaramente è anche non nascosto, cioè, lui voleva fare regista, cioè nel senso è palese il fatto che lui c'ha questo amore per quel tipo di cinema americano, no? Per quel tipo di cinema americano. Quindi alla fine sempre. E poi dopo c'è tutta la mitologia, la narrativa giapponese che allunga moltissimo, drammatizza qualsiasi cosa. Cioè io dopo un po' mi sminchio, scusate raga, però io mi sminchio. Sì, poi dopo sarà pure un genio, io non voglio contestare lui che non è un genio, sarà pure un genio, guarda, lo metto su questo punto, non lo capisco, basta. Sì, no, è quello che dico anch'io, no vabbè, ma magari, cioè sì, non ti dico di no, cioè, tanto di cappello a fantasia, no, quello che ti pare, però boh, sarò io pure dico ogni volta sarò io. Sono io, sì, accetto sì. Questa cosa che sono io. No, sì, infatti. Francesco dice: Roberto Budget, vabbè basta, dopo anche questa possiamo chiudere. Bravo, state a fa' apposta. Luca dice: ha giocato tutti i giochi di Kojima, meravigliosi, vedi, ad esempio Luca apprezza. Gianluca dice: Metal Gear per la prima PlayStation è un capolavoro. Hai visto, mo ieri hanno parlato durante l'evento della Play della remastered dei primi tre. Infatti Gabriel fa: oddio, la voglio! Cioè già sta a rompere allora, palle. Allora devo dire che sono curioso anche io, devo ammettere, che comunque il primo Metal Gear su PlayStation 1 è piaciuto pure a me. assurdo come gioco. Ci sono delle cose che veramente vengono in mente soltanto a uno che ha la testa storta, perché cioè, tipo il fatto che tu devi cambiare, c'era quella cosa lì del tizio telepatico, che tu devi cambiare il controller, lo devi mettere sull'altro spinotto perché sennò lui capiva in che posizione andavi col joystick. C'è una cosa assolutamente no, da senti pa- la cosa bella è quando ti leggeva la scheda di memoria e ti diceva: ah, vedo che ti piace giocare a Crash Bandicoot, ah, esatto, vedo che ti piace Tomb Raider, capito? Quindi cioè, alla fine quindi sono curioso anch'io, insomma, perché comunque il primo Metal Gear era figo, cioè è stata pure una grande innovazione, è stato un gioco con questa enorme vocazione cinematografica. Vi ricordate i titoli di testa con i nomi degli attori? Cioè una follia, no? Nel senso. Però ecco, sono curioso di vedere questo, sì. Però comunque siamo sempre al terzo gioco. E infatti andiamo avanti. Allora andiamo avanti, e quindi adesso per la gioia. La gioia mia e di Simone Nicolai, Sherlock Holmes. A me è già da ridere. The Devil's Daughter. Allora, ecco qua, gli amichetti miei, attenzione, la Frogwares, gli amichetti del cuore, i miei amici proprio del cuore, la Frogwares, che tira fuori Sherlock Holmes, The Devil's Daughter, dopo aver tirato fuori prima però Crimes and Punishment. Allora, altri giochi che io ho giocato sempre su PS Now, perché... Allarga. Allargo, scusate. Non si arrabbiano. Ok. Ah no, ha scritto Allegria, ha scritto Simone, no allarga, però vabbè, allargo. E quindi praticamente che dire, questo qui Sherlock, sono sempre gli amici della Frogwares che a quanto pare, non lo so, hanno il monopolio di Sherlock Holmes, non lo so, non ho capito se hanno sto monopolio, e io siccome sono masochista ho giocato anche questi, però in verità ho giocato a Crimes and Punishment, l'ho giocato tutto, e c'è da dire che non mi è dispiaciuto, cioè per essere Frogwares non mi è dispiaciuto, cioè il primo l'ho giocato volentieri, anche perché poi ancora non avevo capito bene come ragionavano questi, nel senso che secondo me più vanno avanti più peggiorano, non lo so, boh, non lo so, perché questo qui non era male, il Crimes and Punishment, ci sono tanti, sempre giochi lunghi fanno, era lungo pure questo qua come gioco, e quindi ci sono tipo 5-6 casi ogni volta belli lunghi, quindi classica comunque praticamente è la stessa cosa di quello che stiamo facendo noi adesso, ossia Chapter 1, togliendo il fatto che non è open world e la grafica è meno figa tra virgolette, e Sherlock è più grande, non è pischelletto, e ci sta Watson, però ci sta un Watson che non è un deficiente rincoglionito come quello lì dei galline nell'occhi, ossia The Awakened che abbiamo giocato qua in live, e adesso è uscita la remastered della remastered, perché noi stavamo aspettando un'altra remastered. Facilmente proprio però, sì, no. Sì, e per carità, e quindi c'è da dire che l'altro, quindi il Crimes and Punishment, alla fine non mi è dispiaciuto, l'ho giocato tutto, no, ed è stato gradevole. The Devil's Daughter praticamente è un more of the same dell'altro, perché alla fine è la stessa cosa. Secondo me è peggio, perché peggiora, aggiunge degli elementi action, troppi quick time event, troppe però cose. C'erano degli elementi action anche nel primo, sì, però era più contenuta la cosa, cioè allora, posso dire tu fai discorso su Frogware e sono d'accordo con te, il problema loro è che loro provano ad applicare, diciamo, un contesto da gioco di ruolo all'interno di un contesto più d'avventura grafica, no? Quindi danno queste ambientazioni dove tu ti muovi, hai le quest, le cose come se fosse, che ne so, un The Witcher per esempio, però ovviamente è soltanto prevalentemente a struttura narrativa. Fino a che loro si sono tenuti, diciamo, nell'orticello in qualche maniera, come abbiamo detto nel primo di questa serie di Sherlock Holmes nuova, secondo me funzionato, perché poi quello era a episodi, le zone anche visivamente erano circoscritte, tu comunque alla fine superavi determinati pezzi, andavi avanti, poi dovevi vedere se avevi indovinato o no il caso che stai facendo. Poi piano piano loro hanno cercato di alzare sempre di più l'asticella, non avendoci i mezzi, perché non ce l'hanno i mezzi per poterlo fare, e quindi chiaramente a me già questo qua, The Devil Daughters, cioè alla fine a un certo punto mi ha stufato, cioè nel senso, sono arrivato il finale è un casino, cioè il finale devi fare cose strane, cioè non è più un'avventura grafica a quel punto, non è neanche un gioco narrativo, non si capisce neanche più che vuole essere, capito? Ecco, quindi Questo non mi è piaciuto. Quello prima invece mi è piaciuto molto. Secondo me merita comunque di essere giocato. Il fatto che è fatto episodi, comunque a casi, insomma, mi dispiaceva. In generale poi loro hanno sta licenza di Sherlock Holmes, dalla quale oramai lo non so, forse l'hanno presa per i prossimi 35 anni, non ma, so. Ma poi ripeto, monopolio però. Eh sì, perché se hanno la licenza in esclusiva è quello che... esclusiva proprio. Esatto, però voglio dire, nel senso, a canna a un certo punto, insomma. Sì, cioè nel senso, come dici te, no? Allora io il primo, ripeto, alla fine l'ho giocato tutto e l'ho giocato anche volentieri. Non mi ha innervosito come mi sta innervosendo... questo chapter 1 o come mi ha innervosito da morire The Awakened, anche perché ripeto Holmes, Sherlock è lo Sherlock che conosciamo tutti, quindi è più grande, non è a pischelletto che se sta a fare pippe mentali con John, non c'è questa cosa. E in più qui Watson è il Watson che conosciamo, quindi un medico serio affidabile, insomma non è un rincoglionito che c'ha paura del sangue come in The Awakened, e quindi già questa è una cosa positiva. E poi come dicevi te, i casi alla fine sono carini, ma io questo qui non l'ho finito perché una certa mi sono stufata, perché come ti stavo dicendo Crimes and Punishment ok, poi ho iniziato questo qui e al di fuori di sì qualche quick time event in più come hai detto te, però mi sembrava un more of the same, cioè come se io avessi comprato, anche se non l'ho comprato perché ce l'avevo nel PS Now, una sorta di DLC, cioè nel senso sembravano altri casi aggiunti al primo gioco, quindi a una certa mi sono un po' stufata e sono passata ad altro, nel senso mi ero un po' forzata ad andare avanti perché comunque dico vabbè dai, il primo l'ho finito, voglio finire anche questo, tanto per completare la questione, no? E invece dopo un po' mi sono stufata, anche perché, boh, sta cosa della vicina che si impiccia, sta ragazzina, già mi stava sconfinferando di meno, onestamente, confronto al primo che mi ha coinvolta di più. Però, ripeto, secondo me questo e quello precedente sono comunque molto meglio di The Awakened e di Chapter 1, cioè, questi secondo me sono giocabili. No, gli altri ce n'è no. Tra questo qui e The Chapter 1 ce n'è un altro di mezzo, non so se tu te lo ricordi, che improvvisamente non si sa per quale ragione hanno ringiovanito sia lui che Watson, non come Chapter 1 che è proprio un ragazzetto, cioè loro a un certo punto hanno preso i personaggi di Watson e di Holmes e l'hanno ringioveniti, però non mi ricordo il titolo. Aspetta, vediamo se sta qua per caso. Allora qui c'è The Awakened, la remastered della remastered, sì, questo vabbè, è Crimes and Punishment, quello che vi stavo dicendo che invece a entrambi ci è piaciuto di più, che è il primo di questi due. Chapter 1 sono tutti Chapter 1 questi, il Chapter 1, vabbè comunque, quindi poi sono dopo tutti mai... DLC del Chapter 1 praticamente, che poi cioè alla fine, nel senso, a me il more of the same non è che mi dispiace di per sé, cioè se anche sta all'interno di quel tipo di comfort zone, però la storia è bella. Il problema è che la storia di questo è terrificante. Poi loro a Frogwares alternavano avventure dove praticamente rimanevano in alcune avventure rigorose allo stile narrativo di Sherlock Holmes, poi facevano l'avventura dopo e c'era Cthulhu dentro, cioè per dire. E la stessa cosa qua, cioè tu metti elementi esoterici in una storia di Sherlock Holmes, cioè no, capito? Cioè non è Sherlock Holmes, è un'altra storia, ti stai a inventare le cose da solo, stai a fare tutto da solo, capito? Quindi non, no, questo non mi è piaciuto a me. Però c'è da dire che io pure pensavo fosse farina del sacco della Frogwares questa cosa di mettere Lovecraft con Sherlock, e invece se non sbaglio qualcuno proprio sul gruppo di Discord mi aveva fatto vedere che sono tratti da dei libri barra fumetti di Sherlock che incontra il mondo di Lovecraft, quindi non è stata inventata dalla Frogwares questa cosa, sì. Ma sono stati tratti da questi libri o fumetti, non mi ricordo, una cosa simile, ovviamente sì, sì, non però. Sono di Arthur Conan Doyle, ma di gente vero bacon comunque, cioè questa voglio dire, nel senso, sì, è chiaro che esistono già delle, come esiste pure il fumetto dove il dottor Who si incontra con Picard, però cioè capito, non c'è un cazzo su quelle cose, tu dici vabbè, sai la classica scena che ho detto l'altra volta, no, stanno in riunione e dicono senti che gli famo fa Sherlock, c'è il cilindro e uno ha messo Cthulhu, uno ha tirato, esatto, fuori Cthulhu, fa famolo incontrare con Cthulhu, capito, cioè secondo me è andata niente, è andata Sherlock così, no? Vabbè, comunque dai, ma mi sa che è questo che è quello che loro hanno ringiovanito un pochetto proprio esteticamente, comunque, perché se li vedi sono leggermente più giovani di come erano nel capitolo precedente. Sì, insomma. Infatti, però, in Crimes and Punishment mi sembrano un po' più attempati. A un certo punto hanno, pur essendo nella continuità di questo dopo, ok, però l'hanno ringiovanito, cioè fra guerra così, la mattina uno si sveglia e dice ma stamattina mi fa male il braccio, famoli ringiovaniti, così, credo, è così che funziona. Bravo, no, è tipo il curioso caso di Benjamin Button, capito? Passa il tempo e ringiovaniscono. Esatto. Potrebbe esatto. essere così. Allora, intanto leggo qualche commento. Einet dice, gna faccio più con sto Sherlock. C'ha ragione. È una maledizione. Infatti Inspi dice, tutti noi Einet. Luca dice, è una fissa per Sherlock. Sì, a me Sherlock piace, è la Frogwares il problema. Mattia dice, finito, a me non è dispiaciuto, io ho giocato prima questo e poi Crimes e avevo letto fosse inferiore a Crimes, invece giocandoli al contrario mi è piaciuto più la figlia di Crimes. Ah, ok, invece io forse perché ho giocato prima l'altro mi è piaciuto più l'altro e questo onestamente l'ho abbandonato dopo un po'. Però nell'insieme questo è stato più criticato in generale, ma non è che amo, al di là di quello che poi ognuno ci può avere come gusto personale. Ah sì, ovviamente... vabbè, poi è tutto sempre molto soggettivo, certo. Simone dice, a me quello che mi fa incamponare è che gli eredi di Conan Doyle intascano l'assegno e stanno zitti, non dicono ma che cazzate state a fare deficienti. Vabbè, ma i soldi sono soldi. Frega, i soldi sono soldi. Io pure mi starei zitto, cioè, nel senso, sì fate ormai, tanto entrano i soldi. Vincent poi era stato un attimo sospeso dal bot perché immagino avesse scritto in maiuscolo e quindi il bot si incazza quando uno scrive in maiuscolo. Deb, hai mai giocato a Serrated, Scalpel e The Rose Tattoo? No, non li ho giocati questi qui. The Rose Tattoo però ce l'ho presente, ma non li ho giocati, me li consigli? Simone dice, ragazzina, la ragazzina muore, siccome c'ha la ragazzina. Sì. Non lo so, io non l'ho finito, però a priori ti dico di sì. La ragazzina muore sempre, ragazzi. Sempre, sempre. Per spindere comunque. Vincent dice, non è GDR, non è open world, sa soltanto quello che non è, esatto. Francesco dice, non è roba canon, infatti al massimo è roba cannon. Vabbè. Cannon, sì, cannon. E Inspi va, buona serata Inspi, grazie di essere passato. Ok, andiamo oltre, vediamo l'ultimo gioco del 2016 che mi ha fatto conoscere il buon Simone Pizzi, perché come vi dicevo ragazzi, Simone Pizzi consiglia bene. Gioco che non conoscevo, che ho portato sempre sul canale in video, però soltanto un paio di video, perché secondo me il vero problema di questo gioco è che è corto. Perché mi è piaciuto. Mi è piaciuto perché è una sorta di storia raccontata anche questa. Cioè noi in verità non è che facciamo più di tanto. È una storia che noi viviamo. Come potete vedere anche il disegno è molto basic, insomma niente di eccezionale, ma secondo me volutamente, perché uno si deve soffermare soprattutto sul racconto, ed è un mix sempre del buon Lynch con Twin Peaks, è una sorta di X-Files, insomma, cioè questo mistero, noi siamo un poliziotto di turno e dobbiamo indagare su questo mistero. Non ci sono dialoghi, come vi dicevo, quindi si capisce tutto tramite le poche poi espressioni, infatti, che fanno i personaggi, perché comunque, come potete vedere, la grafica è molto minimal. Però è interessante, secondo me, il tipo di modo di raccontare, perché è più una sorta di film, di serie TV confronta un videogioco, quindi questo a me è piaciuto, il modo di raccontare e quindi questa innovazione. Il problema è, secondo me, è troppo corto, l'avrei fatto durare leggermente di più, non dico tanto, però un'oretta di più per vedere, che ne so, qualche altro dettaglio, qualcosa di per farmi conoscere meglio anche qualche personaggio, non lo so, farmi affezionare forse anche di più, non lo so, diciamo che un pochino mi è dispiaciuto che è durato poco, però secondo me ha voti troppo bassi in confronto a quello che è, perché comunque essendo innovativo, secondo me l'innovazione, quando comunque è fatta bene, non quando l'innovazione è fatta male, insomma, comunque questo è fatto bene, dovrebbe essere premiata, e infatti comunque ha vinto dei premi, BAFTA Winner Games, insomma, quindi è stato apprezzato, però secondo me non dal pubblico a questo punto. Vai Simone, raccontaci te, che tu approfondisci meglio, secondo me, Virginia. Io lo consiglio perché secondo me è una sperimentazione, tutte le sperimentazioni meritano comunque di essere osservate, poi alcune riescono bene come dicevi te e alcune poi riescono male. Questa è una tripla contaminazione secondo me, perché è un potrebbe essere considerato un walking simulator, quindi comunque in una visuale in soggettiva, diciamo in prima persona, però allo stesso tempo la contaminazione cinematografica è importantissima, tant'è che durante l'azione del gioco ci sono anche dei tagli di montaggio che sono tipici del cinema, ma anche il tipo di visualizzazione panoramica, no? 2.35, no? Quindi insomma quello che è poi l'aspetto panoramico del cinema, che comunque in qualche maniera gli dà proprio quel tocco, e anche il tipo di colorazione, lo stile che gli è stato dato, e in più rappresenta poi una tripla contaminazione, perché c'è pure questo aspetto del muto, no? Che come dici te, le espressioni facciali sono poche, perché è stata fatta questa scelta low poly, che è una scelta stilistica secondo me, più che un limite, e quindi quello che devi capire lo capisci tramite le gestualità, tramite la scena, comunque la scena ti parla e ti racconta quello che succede, e quello che fanno i personaggi te lo racconta ancora di più. Quindi secondo me è bello, perché ha funzionato, loro sono riusciti a fare quello che volevano fare. Ha questo limite della lunghezza, al quale condivido insomma al 100%, e secondo me ancora aggiungo ancora di più che la mancanza di questa lunghezza non gli ha permesso di essere strutturalmente, narrativamente più evoluto, anche se sarebbe stato forse anche complicato, perché la storia poi alla fine è un po', cioè nel senso, ne risente insomma di una certa sinteticità, insomma, da un certo punto di vista. Però è bello, secondo me è un'esperienza veramente visivamente e cinematograficamente molto bella, una bella colonna sonora, un bello stile, e poi c'è David Lynch, c'è X-Files, c'è tutto dentro, insomma. E infatti, come hai detto te, secondo me è un'esperienza, cioè più che un gioco, forse neanche alla fine un film, è proprio un'esperienza, cioè tu vivi un'esperienza, questa qui è un'esperienza di una modo particolare di raccontare una storia, cioè quello secondo me era, cioè secondo me neanche volevano fare un gioco, veramente un modo di raccontare questa storia con questo tipo di esperienza. Io ripeto, secondo me il vero problema di questo gioco è la eccessiva brevità, insomma il fatto che dura veramente troppo poco. Ripeto, un altro episodio mi sarebbe bastato, perché io non è che ce l'ho con i giochi brevi, anzi non assolutamente, diciamo il gioco secondo me deve durare il giusto a seconda di quello che ti deve raccontare. Come dicevo anche su Telegram tempi fa, a me che mi metti i brodi lunghi proprio così non mi interessa, cioè a me interessa che tu mi racconti una determinata storia, questa storia a seconda del modo in cui tu la vuoi raccontare e il modo in cui tu vuoi fare il gameplay deve essere lunga il giusto, quindi né troppo né poco ma il giusto. Quindi ad esempio tanti criticano i Pilastri della Terra, ok, perché dicono è un gioco troppo lungo dove non devi fare niente di che. Io invece l'ho apprezzato tantissimo, non mi ha annoiato un secondo. L'ho portato tutto sul canale ed è stato lungo veramente come in gioco, però ti racconta così tanto e nel modo giusto te lo viene raccontato, quindi non sia che si dilunga, allunga il brodo con cose inutili, stai lì che non ce la fai più, vabbè sì, taglia, voglio vedere il finale, no, cioè quello è lungo ma era necessario fosse lungo perché c'era tanto da raccontare. Stessa cosa se è un gioco, alla fine la storia è quella, è inutile che tu mi metti riempitivi, mini puzzle eccetera eccetera per allungarmelo e farlo diventare ore. No, cioè preferisco qualcosa di più breve, però che sia raccontato in maniera degna. Quindi in questo caso, secondo me, manca proprio un'altra oretta di racconto. Cioè, manca un qualcosa per dirti sì, questo gioco mi è piaciuto. Perché nell'insieme mi è piaciuto, però ripeto, ho apprezzato soprattutto la sperimentazione e del modo di raccontare questa storia e di vivere questa storia. Ma secondo me manca quell'oretta in più per farlo diventare proprio un bel gioco. Cioè manca quella cosa che per dire la lunghezza giusta era un'altra oretta. Un altro racconto magari con delle specifiche su alcuni personaggi. Magari, non lo so, noi siamo dei poliziotti, c'è la nostra collega, qualcosa racconta. Raccontami qualcosa in più di questi due personaggi che alla fine sono i più importanti. Sì, questo è vero. Cioè fammi entrare ancora di più nella, se tu vuoi fare un racconto tu mi devi fare entrare nella storia, no? Cioè se l'obiettivo è quello, tu mi devi far coinvolgere nella storia, mi devi fare anche in qualche modo empatizzare con i personaggi, mi devi far capire anche perché questo personaggio si è comportato in questo modo, che sia giusto, sbagliato eccetera eccetera. Raccontamelo meglio, così io posso empatizzare con questo personaggio e alla fine del gioco mi rimane qualcosa, no? Invece secondo me c'è stato questo taglio che ha saltato questa parte, onestamente. Cioè per me. Sì, devo dire che hai ragione al 100%. L'unica cosa che posso ipotizzare, perché qui oramai ce ne si tratta di fare un'ipotesi, è il fatto che la scelta stilistica della mancanza di dialoghi, quindi non c'è conversazione, probabilmente questo rendeva più complicato approfondire determinati passaggi. Perché in effetti la sua collega, la collega della protagonista, è un personaggio interessante. E quello che succede poi alla fine, o lo percepisci emotivamente, perché comunque succedono delle cose, no, che non stiamo a spoilerare, che comunque in qualche maniera ti possono anche turbare, no? Non turbare nel senso, comunque ci rimani un po' così, no, nella storia, però o le percepisci emotivamente o alcune cose possono anche sfuggire, no? Questo è un po' il discorso. Però concludendo, diciamo che è un gioco che dal suo c'ha un carisma incredibile dal punto di vista dell'atmosfera, e la colonna sonora anche molto bella, che va assolutamente, cioè va indicato comunque come nota di merito. E poi c'è questo stile filmico che a me piace tanto, insomma. Sì, infatti questo è uno di quei giochi veramente artistici, cioè secondo me è quella la base di questo gioco, no? Però vedi, infatti nella copertina qui c'è la collega, cioè che secondo me è il personaggio del gioco, quindi probabilmente avrebbero voluto me la meglio, sì, magari potevano aggiungere, magari forse c'erano anche in mente di aggiungere una donna, un DLC, un qualcosa da aggiungere dopo, e poi dopo non è stato fatto magari, perché poi dopo loro si sono dedicati al gioco successivo, che è The Last Stop, no? Che vabbè, comunque diciamo che Virginia è, come gameplay è ridotto all'osso, ma c'è molto più gameplay che The South of the Circle, che quello lo devo ancora giocare. È proprio film, cioè, nel senso, l'interazione è veramente basica, però secondo me è una piccola pietra miliare. Quello lo devo assolutamente giocare, sì. C'è una lista di desideri da tanto, quello. Esatto. La volontà arrabbiata, però. No. Allora, vediamo i commenti. Anche per me è un bel esperimento ed è parecchio corto. Questi esperimenti ne devono durare almeno il doppio. Sì, vedi, anche a Mattia gli è piaciuto, no, questo tipo di esperimento, però anche lui si lamenta del fatto che è un po' breve. Sì, secondo me un'altra oretta ci sta veramente, veramente tutta. Jimmy dice: ragazzi belli, io vado, che devo mettere a dormire la piccolina, è stato bello sentirvi parlare. Ma grazie a te, Jimmy, di essere stato qui con noi, e un buonanotte alla piccola, allora. E anche Luca va via, grazie per la compagnia, devo andare a prendere i miei nipoti in stazione, alla prossima live, ciao Deb, ciao a tutti. Grazie Luca anche a te, una buona serata e grazie di essere stato qui. Simone dice: bellissimi i pilastri, sì, padre Philip nel nostro cuore sempre. Anche Chiavaccio va a lavorare, ciao, buon lavoro Chiavaccio, grazie di essere stato qui con noi. E buonasera a Frankie, bella Frankie, buonasera. Allora ragazzi, dopo un'ora abbiamo finito il 2016, la vedo male anche questa sera. Mo acceleriamo, perché comunque... Allora, nel 2017 iniziamo forse con l'avventura grafica del 2017, perché è stato un eventone, come ogni volta che esce fuori questo nome c'è, cioè l'eventone, ossia Thimbleweed Park. Thimbleweed Park, avventura pixellosissima, perché così si fanno pixellosi, non come il nuovo Monkey Island. No, dico ogni volta che c'è comunque Ron Gilbert di mezzo, diciamo il mondo videoludico appartenente al mondo delle avventure, insomma, è in subbuglio, no? Qualche maniera. Esatto, ogni volta che c'è lui le persone impazziscono praticamente, basta c'è scritto Ron Gilbert, allora oddio. C'è da dire che anche io, quando ho visto questo, che doveva uscire questo, ho letto Ron Gilbert, ho visto i pixel, anche io ho fatto oddio. Obiettivamente l'ho fatto anch'io, cosa che non ho fatto con il nuovo Monkey Island, ma l'ho fatto con questo quando doveva uscire. E infatti questo qui l'ho preso abbastanza, non dico al day one, però l'ho preso subito questo qui, perché lo volevo giocare assolutamente, perché dico: ah, che figo, Gilbert più pixel più personaggi che ricordano anche quelli di Maniac Mansion, che sono tutti un po' macrocefali, no, confronto al resto del corpo. Questo è Lucas degli anni 80, cioè alla fine, sì, fine 80 inizi 90, insomma, guarda, quindi... ancora meglio secondo me è proprio lo stile Zack McCracken, questo, cioè Zack McCracken, sì. Ricorda insomma l'epoca d'oro della Lucas, quindi fine 80 inizi 90, e quindi quando ho visto ho fatto: no vabbè, questo è mio, subito. Io sono rimasta delusa, onestamente, non so te. Ci sono più personaggi giocabili che ci sta facendo vedere il trailer, quindi ricorda veramente Maniac Mansion, no? Perché cambi personaggio e puoi fare le varie interazioni, ognuno con la sua storia, che alla fine però poi si ricollegano. Quindi questo ad esempio è un altro personaggio giocabile. E a me è piaciuta soltanto Dolores, quindi la ragazza questa qui con gli occhiali, i capelli rossi, è l'unico personaggio che mi è piaciuto. E la sua storia mi ha coinvolto di più. Ho odiato il pagliaccio, lo so che il pagliaccio piace a tanti, ma è quel lo stile comico che a me non fa ridere, mi ricorda un po' quello da Daedalic, del stile che non mi fa ridere, anche se questo qui è più cinico, perché la Daedalic sì è cinica, ma forse il pagliaccio lo è ancora di più. E anche questo qui comunque, i detective, un saluto sempre a X-Files e a Lynch, anche dai, sempre un pochino, sempre da lì prendono tutti. E il gioco è molto lungo, veramente lungo anche questo qui di gioco. Ho fatto difficoltà in alcune parti, ho dovuto barare mi sa un paio di volte perché mi ero bloccata, quindi la difficoltà obiettivamente ricorda un po' quella dell'epoca, quindi degli anni 90 eccetera. E infatti 14 ore e mezza ci ho giocato, bello lungo questo gioco, e ho fatto fatica ad arrivare alla fine perché non, ripeto, tre personaggi su quattro non mi hanno fatto impazzire, mi piaceva soltanto Dolores. E questo penso sia uno dei giochi con i finali più brutti mai fatti, veramente. Io ripeto, senza spoilerare, ma il finale quanto è brutto, quanto è brutto. Però ho sentito tanta gente che, anche se il gioco l'ha apprezzato, il finale ha detto che è veramente brutto. Poi c'è qualcuno che l'ha apprezzato il finale, sì, però la maggior parte delle persone ho sentito che il finale gli ha fatto abbastanza schifo. E ma quindi è un finale comunque, non credo che ci sia un finale solo, Non lo so, non so se c'è stato più di un finale, onestamente. Io c'ho presente quel finale lì che poi ho visto su internet, insomma, la gente si lamentava, era quello. Non credo abbia più finali, sai, non lo so. Sì, benissimo, manco mi ricordo, devo dire la verità. Onestamente. Poi è uscito anche un DLC gratuito, non so se c'è qua, eccolo. Ah, c'è proprio, pure Ransom, perché era uscito un DLC di Dolores, eccolo, sì. Eccolo qua. Che però non è stato tradotto in italiano. Questo è gratuito, e anche se a me Dolores è l'unica che mi è piaciuta, non l'ho neanche giocato, onestamente, perché... No. Boh, non lo so. Cioè, nel senso, non, siccome non mi ha coinvolto tanto alla fine questo gioco, sono rimasta abbastanza delusa, non mi è venuta voglia di giocare a questo. Forse anche per questo io, quando hanno annunciato il nuovo Monkey Island, non sono impazzita né altro, perché siccome mi aveva già deluso Thimbleweed Park ed era pure pixelloso, allora ho detto vabbè, vedremo col nuovo Monkey Island. Cioè, ci sono andata già coi piedi di piombo, forse perché anche questo qui invece mi ha deluso, capito? Quindi anche per quello, secondo me, ci sono andata un po' più così. Te, Simone, che dici di Thimbleweed Park? No, io sono breve, devo dire che io l'ho giocato, cioè l'ho preso quasi subito, proprio perché, anzi no, mi sa che a me mi hanno dato una chiave, se non mi sbaglio, forse proprio per fare una recensione, adesso neanche me lo ricordo. Però comunque ci ho giocato quasi subito, e l'ho atteso proprio per questo stile Zack McCracken, che per chi mi conosce sa che per me è forse l'avventura alla quale sono più legato in assoluto, anche se Monkey Island è di gran lunga più bella. Però poi c'è una questione, è quello che è bello, è una questione, è quello che è effettivamente importante per noi, no? E devo dire che anche le prime scene non mi dispiacevano, no? Quando vanno nel corpo di quello morto, l'atmosfera, anche gli effetti sonori, è un richiamo costante e voluto chiaramente a quelli della mia generazione, cioè ti stanno telefonando direttamente al cuore, no? Cioè stanno di guarda, ti ricordi com'eri felice quando giocavi a quei giochi? E poi in realtà il gioco, il problema è che è talmente fedele ai giochi di allora, come dicevi tu, che alla fine oggi è ingiocabile un gioco del genere, cioè nel senso, lo giochi perché alla fine oramai è iniziato, anch'io sono andato a vedere qualche volta da qualche parte varie soluzioni, perché ci sono dei pezzi che più che non riuscivo a superare, mi ero rotto le palle, ecco, diciamo così, mi ero rotto le palle perché dice no, ma hai riportato 30 anni indietro nel tempo, e io non sono 30 anni indietro nel tempo, io sono andato 30 anni avanti, e quindi io sta cosa non l'ho accettata e continuo a non accettarla, perché questo voler ancorare le cose e le persone al passato è divertente, però a volte poi dopo, quando diventa così integralista, poi tutti dicono che alla fine era un esperimento, una sperimentazione, che comunque a molti è piaciuto. Io sono contento che a molti è piaciuto, anche a me è piaciuto, però mi ha rotto le palle poi. È quello, sono d'accordo. Pure a me, ho detto, io a una certa l'ho finito un po' per inerzia, po' per vedere dove voleva andare a parare, e soprattutto per Dolores, perché ripeto, l'unico personaggio che veramente mi è piaciuto. Però mi sono dovuta sforzare per finirlo, sì. E quando è così è un peccato, perché essendo l'avventura grafica il mio genere preferito, allora quando mi devo sforzare per finire un'avventura non è un buon segno, insomma. Io le gioco molto volentieri, quindi sì, onestamente devo un po' m'allappato. Sì, poi è troppo lunga. Poi troppo lunga. Devi fare quello con quell'altro, perché poi dopo, cioè, mi ha riportato lente all'epoca di Zack McCracken, solo che allora lo potevi capire. Oggi io non l'ho accettato, capito? Cioè, a un certo punto mi sono rotto le palle, quindi laddove poi, quando mi ero rotto le palle, mi sono andato a leggere i pezzi, sono avanti, insomma. Sì, sai dove io soprattutto mi sono dovuto guardare le soluzioni? Quella parte del fantasma. Con quello mi sono proprio persa. Sì, forse pure io. Sì, no, lì mi sono proprio persa. Ho dovuto guardare lì 2-3 volte perché non riuscivo a capire proprio che cosa dovevo fare. Cioè, era proprio la classica cosa, sì, ma mo che devo fare? Cioè, non che c'era un enigma e quell'enigma non sono riuscita a farla. Era proprio, sì, vabbè, ma mo che devo fare? Cioè, non... quello era. Ecco, questo qua, Franklin. Qua mi sembra che mi sono un po' impiccato, onestamente, questo Franklin. Comunque, Frankie dice: bello Virginia, vedi, anche a lui è piaciuto Virginia. E anche bellissimo Thimbleweed, anche molto difficile. Quindi lui è apprezzato, ma dice che obiettivamente è difficile. Nico dice: l'ha iniziato ma non gli è piaciuto e l'ha abbandonato. È capibile, secondo me, perché con tutte le cose che abbiamo detto noi, no? Troppo lungo, troppo difficile, troppo anni 90, sì. Cioè capibile, sì, come poi, cosa, no? Poi dopo per affezione, è come, hai capito, cerchi di portare, diciamo, più avanti possibile un rapporto d'amore, anche se cioè, oramai ti ha rotto le palle, no? Sì, insomma, cerchi di salvare quello che non è salvabile. Bravo, esatto. Quindi io comunque ho cercato di salvare il salvabile, ecco, diciamo così, per portandolo a termine, anche per rispetto di fronte a una cosa che comunque in qualche maniera mi appartiene, no? Però mi ha rotto le palle. Sì. L'ho detto già 3 volte. No, vabbè, ma è vero, però, cioè, va sottolineata questa cosa. Mattia dice: io sono uno dei pochi ad essere rimasto deluso perché mi aspettavo Mario e Monti. No, anche io e Simone, vedi? Io l'ho pleggiato a suo tempo, invece sono un ottimo gioco riferito all'epoca d'oro, ma adesso mi sarei aspettato di più. Esatto, perché si rifà tantissimo a fine anni 80 e 90, quindi l'epoca d'oro della l'epoca d'oro della Lucas, e quindi nel 2017 anche noi che abbiamo amato quell'epoca, obiettivamente abbiamo fatto fatica. C'è niente da fare. La cifra. Frankie dice: Dolores la nerd del gruppo, esatto, grandissima. Il clown ricordava molto Krusty. Beh, secondo me è ancora più stronzo di Krusty, però. Sì, però allora, questo gioco c'ha una marea di richiami a comunque tutta una diciamo una mitologia televisiva e cinematografica che è abbastanza palese, è citazionismo puro sto gioco. E secondo me pure a me mi ha ricordato Krusty, e questo me l'ha indispettito ancora di più, perché alla fine non era neanche un personaggio originale, cioè, capito? Non c'era niente di originale nel pagliaccio, insomma. Sì, è un Krusty più stronzo, però dai, cioè, l'ennesima potenza, insomma. Non è che Krusty era meglio, insomma. Beh, confronto a questo, però dai, secondo me è un po' meglio. Allora, Simone dice: c'è anche un po' di Scooby-Doo per la tizia con gli occhiali. Sì, vabbè. Poi dice Mattia dice: io, come dico sempre, do più senso all'amico Schaffer su Broken Age nonostante i suoi problemi. Quindi Mattia è più team Schaffer, diciamo. No, assolutamente no, io nessuno dei due. Nessuno oggi. Dei due, esatto. Come oggi nessuno dei due, per motivi diversi, perché abbiamo parlato l'altra volta di Broken Age. Sì, l'altra Broken Age è un disastro, Broken Age, ragazzi. E invece Francesco dice: adoro sto gioco, stradoro il finale, vedi? Ti ho detto, ci stanno tanti che come me il finale boh. E invece c'è chi ha apprezzato il finale, Francesco è fra quelli, vedi? Io lo capisco, cioè lo capisco, e so anche che dal suo punto di vista c'ha anche ragione, nel senso, non è una questione poi di ragione o di torto, però boh, ragazzi, vedevo di. Poi Francesco dice sempre: su Epic lo davano gratis, lo prendemmo e giocammo insieme, subito a tirarla che gli danno le chiavi. Ti sta riprendendo, Francesco. Quindi ci avete giocato insieme, a quanto pare. A me mi diedero una versione ancora preliminare prima di uscire, che tra l'altro non potevo neanche, cioè, dire insomma che c'eravamo sta cosa, sai quando devi scrivere una cosa. Poi dopo ho lasciato perdere perché non so, il mio, cioè la collaborazione con Adventure Planet pure non c'era più, tante cose non c'erano più, quindi alla fine ho lasciato perdere. Poi quando è uscito, sì, ce lo siamo ripreso gratis, è vero, può essere pure che c'ha ragione, ma io, tu pretendi che io mi ricordo addirittura. Diciamo sta pretendendo troppo. No. Lili, comunque, dici di andare a dormire, ma resto, dai, fatela con noi, Lili. Simone dice il troppo stroppia, insomma, sì. E Francesco dice: non ci ho visto niente di integralista, anzi, su essere meta videoludico l'ho visto piuttosto critico sul purismo del genere, c'è tutta la parte finale che fa capire che poteva essere peggio. Così ha detto il buon Francesco, insomma. Ok, vabbè, noi ne prendiamo atto. Esatto. E probabilmente c'ha ragione, ecco, diciamo così. Diciamo, siamo noi che non l'abbiamo capito come sempre Kojima, insomma. A distanza di anni io non mi è rimasto niente di quello che magari mi aveva entusiasmato lì per lì, capito? Quindi vuol dire che o c'è un problema neurologico o proprio dal punto di vista dal punto di vista, insomma, dell'impatto non mi ha lasciato, basta. Va bene, passiamo al successivo, sempre 2017, gioco che io ho appena abbandonato con Gabriel. Vabbè, ossia Siberia 3. Allora, come sapete, insomma, l'ho detto 700 milioni di volte, lo dirò anche questa sera, io e Socal pure non andiamo d'accordo, e mo voi dite con chi vai d'accordo, te con pochi, va bene. Diciamo che sì, l'altra volta abbiamo parlato del primo Siberia e io ho detto, per quanto lo trovi noioso, soporifero, dupal, bla bla bla, però è comunque una bella avventura per l'epoca, era una bella avventura. Il primo si è inventato tutta sta cosa degli automi, tutto sto mondo qui, tanto di cappello. Kate Walker, come sapete, è il personaggio femminile che io odio di più nella storia dei videogiochi, e però siccome Gabriel apprezza tanto questa serie e gli amici di Calavera mi hanno regalato la kid di Siberia 3, allora ho detto dai, giochiamoci Siberia 3. Così poi soprattutto facciamo il quarto, perché il quarto è l'unico che veramente mi ispira, perché sembra almeno Siberia degli altri, diciamo. E per quindi mi ispira di più. Quindi io con Gabriel da pochissimo, cioè qualche giorno fa, abbiamo deciso di abbandonare Siberia 3. Addirittura lui si sta facendo due coglioni con questo gioco, quindi io non faccio testo, perché col primo Siberia botta de sonno, il secondo Siberia botta de sonno, il primo l'ho finito a fatica, il secondo sono arrivata fino ai tuk tuk e poi mi sono rotta le palle, come si chiamano là, il popolo dei tuk tuk là. Sì, va bene, a ricordarsi. Comunque questo è più breve dell'altro, eh. È breve, ammazza, io e Gabri abbiamo giocato un bel po' di ore, non finiamo più. Vabbè, fatto sta che, allora, cosa c'è da dire secondo me su questo Siberia 3 di importante? C'è da dire che il doppiaggio non è in italiano, cosa che invece nei primi due Siberia era in italiano ed era fatto molto molto molto molto bene. Soprattutto la doppiatrice di lei è molto brava, ed è così brava da renderla ancora più insopportabile a Kate Walker. Quindi il doppiaggio fatto bene l'ha resa ancora più stronza. Mentre qui, essendo doppiata in inglese, il doppiaggio è molto più piatto e Kate Walker non mi sta meno sulle palle, perché essendo un doppiaggio più piatto e lei pare che si sia data una calmatina nel terzo, mi sembra meno stronza, sono riuscita a sopportarla di più perché lei è diventata un po' più piatta, diciamo, come personaggio. Il vero problema di questo Siberia 3 è che, oltre vabbè essere lento come tutti i Siberia, è che ci sono troppo sti cazzo dei tuk tuk. Come si chiamano? Come si chiamano i tuk tuk qua? Come si chiamano sti tuk tuk? Non mi ricordo. Gabri, piace a te il gioco? Vabbè, sti cosi qua. Vabbè, quelli. Che gli chiedono l'aiuto a lei, perché praticamente devono attraversare questo lago per fare questa migrazione che la fanno sempre. Però ci sono vari casini. E quindi, siccome Kate Walker ormai c'ha cazzo da fa e ha deciso che la sua vita la dedica ad in giro in posti freddi, in mezzo a gente, aiuta gente random, quindi lei che fa? Che famo? Non aiutiamo i tuk-tuk ad attraversare il lago? Famo sta cosa. E quindi ovviamente si va a impelagare in vari casini e lei, come al solito, deve risolvere tutta la situazione. Però, cioè, io e Gabri abbiamo fatto fatica, onestamente, volevamo finirlo per così per poi goderci il quarto, E invece entrambi l'altro giorno abbiamo deciso, vabbè, basta, disinstallalo e pensiamo a giocare al quarto. Quindi mo inizieremo il quarto e sicuramente, ripeto, quello che secondo me piacerà pure a me. E questo invece proprio per disperazione una certa, ho detto basta, basta. Magari vediamo su internet com'è il finale per capire un attimo come finisce, però non ce la si fa. E infatti tutti i fan veri di questa serie sono rimasti molto delusi dal terzo, mentre il quarto dicono che è molto bello. E infatti, come potete vedere qua, i voti sono bassi, insomma, nella media. Quindi ha deluso un po' tutti. E Simone, che dici? Sì, diciamo che questo terzo capitolo, quando fu annunciato, sembrava proprio un'opera revivalistica. Poi in quel periodo andava proprio di moda sto richiamo di andare a riprendere i vecchi glorie del passato. E ovviamente dando un taglio più moderno all'avventura classica, dandogli questo aspetto, insomma, 3D, un po' più cinematografico. Senza i mezzi, ovviamente, quindi senza mezzi, sai, alla fine il gioco è uscito un po'. E qui l'unica cosa degna di nota, secondo me, è che inizia la transizione tra un gioco che aveva comunque un'ambientazione favolisticosa, diciamo così, a un quarto gioco che ha un'impronta completamente realistica, anche politica, io oserei dire, cioè nel senso. È proprio tutto, cioè sembra un'altra storia. Cioè l'unica cosa che rimane secondo me di concreto nel quarto è diciamo l'ambientazione, gli automi, tutta la parte dei meccanismi e via dicendo, perché sennò il gioco c'ha proprio tutta un'altra carratura, ma proprio a livello di mood, cioè più drammatico, cioè una cosa che pare che non c'entra niente. Mentre l'unica cosa positiva, che poi l'hai notato anche tu, e nel terzo è l'evoluzione di lei, che lei a un certo punto è cambiata in questo percorso che lei ha fatto dal primo al terzo, e ovviamente cambierà ancora nel quarto, ancora peggio, cioè nel senso, insomma, vabbè, poi non dico perché insomma bisogna che se no sono spoiler. E l'unica cosa è che questo terzo, diciamo, c'ha il finale che si collega col quarto, perché sennò insomma. Infatti mo lo guarderemo su YouTube, cioè, e poi iniziamo il quarto. Sì, secondo me lei comunque è migliorata tanto, cioè nel senso, forse col fatto che lei mi è sembrata nei primi episodi una persona molto egoista, no? Come dicevo l'altra volta, cioè lei sparisce, lascia tutto e tutti, ragazza, madre, tutti l'assillavano, è vero. Però lei parte con sto vecio, col treno, con gli automi, vabbè, vado in giro a cercare i mammut nel primo, no? Quindi lei ha abbandonato tutto e tutti, il lavoro, qualsiasi cosa, senza dare notizie, spiegazioni, eccetera, e basta. E tutto il suo modo di fare nei primi Siberi è molto egoistico sempre, no? E quindi io non la sopporto. In questo terzo, forse piano piano, a furia di conoscere tante persone, no? Di rapportarsi a tante persone, scoprire nuove cose e soprattutto veramente aiutare sempre gli altri, mi sembra che il personaggio abbia avuto un grande sviluppo, insomma, da una persona molto egoista a una persona che obiettivamente si impegna per aiutare gli altri. Quindi mi sembra che abbia avuto una bella evoluzione questo personaggio, da non sopportarlo a va bene, ok, la riesco a sopportare a Kate Walker, quindi no. Mi sembra una bella evoluzione, insomma. Diciamo che lei parte da una persona che veniva da un mondo che comunque l'aveva condizionata, l'ha fatta diventare quello che era, fino a doversi integrare in un'altra realtà che la fa diventare qualcos'altro, no? Questa è l'unica cosa positiva. Per il resto, insomma, è un gioco secondo me trascurabile, cioè secondo me si può addirittura iniziare direttamente dal quarto. Magari uno va su YouTube, cerca un video dove raccontami tutta la storia di Siberia dal primo al terzo, e magari in 10 minuti vedi un po' tutta la storia e chi se ne frega, un po' in qualche maniera ti riagganci, ma poi andà direttamente al quarto, insomma. Sì, infatti l'altro giorno leggevo proprio un commento che dicevano: guarda, per me puoi giocare il primo e il quarto, il secondo e il terzo li puoi saltare. E posso essere d'accordo, perché nel primo comunque ti spiega tutta questa storia degli automi, di questo viaggio di lei, del tipo che del vecio, che mo non mi ricordo come si chiama, i mammut, eccetera. Perché si trova in questa posta, gli U-Call comunque sui tuk-tuk, poco fa l'ho letto, i suoi U-Call. Okay. E quindi secondo me il primo è fondamentale per entrare in questa storia, no? Per capire un attimo l'ambientazione, che cacchio è Kate Walker, eccetera. Il secondo, ripeto, io a metà l'ho abbandonato perché mi sono fatta due palle e ho iniziato a giocare al terzo e non è che sono stata lì a dire oddio che è successo, cioè alla fine lei te lo dice pure che è successo più o meno, quindi va bene. E probabilmente sì, anche non finendo il terzo comunque potrò giocare il quarto senza problemi. Quindi sono d'accordo che forse il primo e il quarto alla fine sono quelli che valgono la pena, il secondo e il terzo forse sono un po' trascurabili. Però insomma, poi inizierò il quarto e poi vi dirò che ne penso del quarto. Sì, faccio solo un accenno alla questione del doppiaggio che dicevi te, giusto per dare un po' di contesto. Diciamo che i primi due Siberia che sono stati doppiati in italiano sono usciti in un'epoca in cui esisteva ancora una distribuzione localizzata, cioè nel senso che una volta i giochi non li scaricavi da internet, ma venivano presi da un distributore, portati nel proprio paese, tradotti o addirittura doppiati e poi ovviamente ridistribuiti sul mercato. Qui ovviamente, cioè, essendo stata completamente bypassata questa cosa nell'era di internet, insomma della distribuzione digitale, non essendoci più un distributore, se il doppiaggio non lo fa il produttore stesso, non lo fa nessuno, e in questo caso a nessuno gli conviene fare il doppiaggio in italiano, perché non ci sono tanti soldi dietro, insomma. Ecco, questa è un po' una cosa che dispiace, perché tu sei abituato a sentire Kate Walker parlare in italiano e ve la dimenticate, perché neanche il quarto ovviamente è doppiato in italiano. No, infatti anche il quarto sì, i sottotitoli. Allora, leggiamo un attimo qualche commento. Franky dice: sicuramente è meglio di Monkey Island 3, penso a Thimbleweed Park, no? Simone invece dice: non mi toccare Monkey Island 3. Franky dice: il finale di Thimbleweed è come quello di Evangelion, eccolo. Non lo capisce nessuno. Evangelion. Tornato Evangelion. Franky dice: a me è piaciuto Monkey Island 3, ma speravo fosse più difficile. Sì, no, il 3 non è difficile. E i tucchi sono i salatini. Ok, allora io taglio qui un pochettino il tagliabile, però questo non lo posso tagliare perché è orrendo. Allora, passiamo dalla una delle mie avventure grafiche preferite a una sorta di remastered, più o meno, che non si sa perché questi matti hanno deciso di fare, ossia Black Mirror. Allora, come sapete, Black Mirror, abbiamo giocato in live il primo, abbiamo giocato in live il secondo, e già dal secondo abbiamo visto un crollo perché gli sviluppatori non erano più gli stessi. Quindi il vero Black Mirror, per me vero e unico, rimane quello originale, insomma, che abbiamo giocato insieme e che avete apprezzato. Poi non si sa perché, non si sa per come, insomma, hanno deciso di fare una sorta di remastered, che poi in verità non è una remastered, del primo, tanti anni dopo, quindi nel 2017, che ho giocato sempre sul PS Now. Cioè, io ho recuperato un sacco di queste avventure su PS Now e purtroppo l'ho fatto, era meglio che non lo facevo, perché questo gioco non ha senso di esistere. Come state vedendo, cioè, cambia tutto. Dovrebbe essere una sorta di remastered del primo, ma in verità cambiano un sacco di cose, oltre a cambiare i personaggi. Vabbè, lasciamo perdere. Il cambio grafico va bene, è migliorato, quello che vi pare, anche se io preferisco comunque l'originale, il primo. Il vero problema è che cambia addirittura la storia. Cioè, perché cacchio cambi la storia? Vuoi fare una sorta di remastered del primo? Perché devi cambiare le cose e farle a cazzo di cane? Cioè, andava bene così. Allora, o fai un altro gioco e lo chiami in un altro modo, oppure non, cioè, segui quello che era, magari, che ne so, aggiungi qualche altra cosa che all'epoca non hanno aggiunto, che ne so, togli il fatto che si poteva morire quelle due o tre volte perché è una cosa un po' vecchia. Va bene, fai in modo che il personaggio non debba fare indietro avanti indietro 700 milioni di volte perché era una rottura di palle, e sono d'accordo. Cioè, tutte le cose che erano un po' vecchie, a me va bene che tu le fai diventare più moderne, no? Meno noiose. E lì potevo anche accettarlo, non avrei detto assolutamente niente, ma che tu mi cambi addirittura la storia, i personaggi, il finale, tutto, e me lo chiami però Black Mirror, e fai la maledizione dei Gordon qua, cioè, perché? Perché? Che poi si chiama Samuel Gordon, e infatti, vedi, comunque loro sono i Gordon, no? Però dice: dopo la morte del padre, David Gordon, cioè manco più si chiama Samuel, ma diventa David, perché? Perché? Perché? Se poi la storia è più o meno quella. Quindi questa, cioè, è una sorta di remastered, però poi è una sorta di reboot si dice poi quando è modificato, cioè non... io vi giuro, questo gioco non l'ho capito, più andavo avanti e più dicevo ma che cosa sto giocando, cioè che cacchio significa, perché l'hanno fatto. Però sono arrivata alla fine per vedere se cambiavano anche il finale, cosa che hanno fatto, quindi anche il finale è diverso. E secondo me è una bestemmia al primo gioco questo, cioè solo così posso dire di questo gioco. Te Simone che dici, l'hai giocato? Allora, fermo restando che anche io ho apprezzato tantissimo il primo Black Mirror, tra l'altro anche quello nell'epoca in cui venivano doppiati in italiano, e io ho apprezzato l'intenzione, cioè nel senso loro hanno detto, a parte che questo sì non è, questo è un reboot proprio, sì. Non è neanche una remastered, neanche un remake, non è proprio un reboot della storia, tra l'altro da quello che mi pare di aver capito in realtà prende i tre capitoli di Black Mirror e li mescola tutti quanti insieme, quindi in realtà non è proprio la storia del primo originale, cioè hanno fatto un po' diverse cose. Allora, se tu vedi la scena iniziale capisci l'intenzione è quella di portare una dinamicità visiva all'interno di un gioco che era ancorato alla vecchia concezione delle avventure grafiche, soprattutto nell'era del tail, no? Dove ovviamente tutte le avventure oggi, cioè, cominciavano ad averci questa impronta più televisivo cinematografica, diciamo così. Il problema è che poi secondo me alla fine il gioco era lento e macchinoso uguale, perché al di là della sequenza iniziale di lui che corre nel coso, insomma tutto, alla fine tu ti muovi dentro sta casa con 50 milioni di enigmi, the puzzle game che io, ragazzi, poi lo sapete, cioè nel senso io c'è cioè una cosa che io non lo concepisco, cioè io entro dentro un castello che è il castello di mio nonno, e per qualsiasi cosa che devo fare ci sono dei puzzle. Cioè nella vita reale sta roba non esiste, cioè io lo posso capire, uno, due lo posso capire, ma no che qualsiasi minchia devo accendere la lampadina, il puzzle, cioè che poi certi sono proprio una palla, cioè sono una palla. Dimmi che non so gli allungabrodo che dico sempre, so gli allungabrodo. Ma questi non solo che sono un allungabrodo, ma so anche un esercizio di mancanza di fantasia, di creatività dal punto di vista di gameplay, perché sta roba l'abbiamo vista milioni di volte in milioni di giochi e ci avete rotto le palle, scusate, mi dispiace dire parolacce nel tuo canale, però è così, cioè. No, mi ha fatto troppo ridere, dentro nel castello dei miei nonno per ogni cosa devo fare un enigma. Cioè, accendi la lampadina, aspetta, clic clac clic clac clic, devi metti lì a fare tutto l'enigma, devi trovare lampadina. Il codice di quante volte devi cliccarlo, capito? Dai, cioè ragazzi, dai, ma che, ma che stiamo a dire, cioè, ma per carità, ma poi tutta sta roba, allora tu metti un aspetto dinamico visivo e poi distruggi la dinamicità narrativa con sta roba, cioè mo al di là dell'affezione alla storia originale, che posso comprendere il tuo punto di vista, no? Ma io faccio un passo oltre e dico va bene, accetto che mi stai raccontando un'altra storia, però no, no, no, in questo modo. Infatti a un certo punto ho detto sai che c'è disinstallazione in corso. Ah, non l'hai finito? Male, no. Molto male, perché il finale è brutto, quindi andava visto. E considera che per me è tanto, perché io comunque alla fine anche nelle cose che mi massacrano gli zibedei, alla fine io vado avanti, cioè è difficile che interrompo una cosa. Però devo dire, quando tu mi fai sempre gli enigmi, le cose esposte, i puzzle, e il gioco del 15, le solite cose, cioè, no, scusate, però mi alzo e dico, ok, questo mi rende una persona, che ne so, un non iper addicted delle avventure grafiche, va bene, ci sto, non importa niente, giudicatemi per quello che è. Dice, è andata così e basta. È andata così, fratelli. Allora, andiamo avanti. 2018, salto anche qui perché sennò già so come va a finire. E direi di andare a un titolo molto importante che abbiamo accennato in verità l'altra volta. Questo non si può saltare assolutamente. Ossia Detroit Become Human. Allora, intanto Lily gli stava morendo la batteria, quindi penso sia andata via. Notte Lily, grazie di essere stata qui. Simone dice Samuel Gordon sempre nel cuore, al di là della maledizione. Sempre nel cuore Samuel Gordon. Frankie dice 806 iscritti, non vedo supplì. L'altro giorno ti ho detto bisogna rifare il supplì party. Perché Simone, devi sapere che ogni volta che io arrivo alla centinaia successiva, insomma, quindi 700, 800 è... con Frankie e Inspi facciamo il supply party per festeggiare questa cosa. Capito. Ho capito, però. E quindi abbiamo superato gli 800, dobbiamo fare il supply party. Però scusa, io che ti esorto da mesi a fare il supply party per davvero, cioè, nel senso, e vieni a fare il supply party. Infatti, mi sa che la porta via è buco. Tanto sei dove sto. Comunque, volevo dire, Samuel Gordon è sempre nel cuore, ma anche, come posso dire, l'impalcatura della recinzione, cioè Samuel Gordon nel cuore, quindi insomma è rimasto così. È rimasta nel cuore anche quello. È rimasta nel cuore anche a lui, quindi insomma. E Vincent va a letto. Notte Vincent, grazie di essere stato qui. Se ne vanno tutti, maledetti, vabbè, poi recuperano quando hanno tempo. Allora, quindi torniamo alla Quantic Dream, torniamo ai giochi, quelli che a me piacciono tantissimo. Abbiamo visto Heavy Rain, ad esempio, degli stessi creatori. E quindi cosa dire di Detroit Become Human? Che questo è forse stato uno di quelli che ho preferito di questi della Quantic Dream, di queste storie interattive, perché oltre che i personaggi giocabili sono tre, e come potete vedere c'è questo qui, Connor, questo qua, e gli altri due ovviamente non mi ricordo come si chiamano, mi ricordo soltanto Connor, non so se questo si chiama Oscar, lei si chiama Cara, mi pare, no? Cara, bravo, si chiama Cara, lei che però qua nelle immagini è più stronza, non c'è sta a quanto pare, no? Eccola, le spalle, eccola qua, e poi c'è quell'altro ragazzo che però non mi ricordo bene, onestamente, come si chiama. Però questo l'ho trovato veramente veramente interessante, soprattutto perché oltre al fatto che questo qui secondo me è quello che rende meglio nella scelta, nel senso, quando ci sono delle scelte decisive da fare sono veramente decisive, perché al di fuori che ti muore il personaggio, ma cambia tantissimo la storia. Io me ne sono accorta quando ho finito il gioco. Oltre che è difficile non far morire nessuno, allora c'è da dire che come l'ho giocato io insieme a un gruppo di persone, insomma l'abbiamo giocato insieme, i tre protagonisti ci sono rimasti tutti vivi, quindi è già stata una bella cosa, perché come vi dicevo l'altra volta, ad esempio a Mauro, a Inspi, sono morti tutti, cioè lui non è arrivato alla fine del gioco perché gli sono morti tutti i personaggi. Io ho riso tipo mezz'ora quando me l'ha detto, perché dico, ma dai, come hai fatto a perderli tutti? Cioè è difficile che non ti muoia nessuno, ma è anche difficile che ti muoiano tutti, insomma. E quindi questa cosa mi ha fatto veramente tanto ridere. Quindi lui non ha visto il finale perché gli sono morti tutti i personaggi. Invece noi i tre protagonisti non li abbiamo persi, quindi questa è stata una grande vittoria. Però c'è morto qualche personaggio secondario che comunque è collegato a loro, e a seconda di alcune azioni che fai possono morire. E la cosa veramente interessante di questo gioco, oltre alla storia che è molto bella, di tutti e tre i personaggi, in verità sono delle tre storie veramente belle, fatte bene, che poi ovviamente si riuniscono alla fine fra di loro, sono tutte collegate, soprattutto quella di Connor, il protagonista, secondo me la più bella. Il fatto che veramente a seconda di una determinata scelta cambia completamente la parte successiva della storia di quel personaggio. Io ripeto, me ne sono accorta con Cara, che è questa qui che vedete adesso, perché noi abbiamo fatto una scelta e abbiamo vissuto la storia in un determinato modo, e avendola vissuta in quel determinato modo abbiamo perso alla fine dei personaggi che stavano con lei, non lei, ma dei personaggi che stavano con lei. Il modo per salvare tutti quegli altri personaggi invece era fare una scelta che sembra così, insomma, niente di che, ma che in verità da quella scelta cambia assolutamente la storia di quel personaggio, che poi io ho visto su YouTube che veramente cambiano le ore di gioco, non ti dico sì, un pezzettino, sì, una cazzatina, no? Cioè cambia la storia di quel personaggio e di quei personaggi che stanno con lei, e l'unico modo per salvare quei personaggi che stavano con lei era fare quella scelta in quel momento e poi non sbagliare le scelte successive con quell'altro arco di storia. Quindi qui veramente c'è un lavorone infinito, perché a seconda della scelta che fai in quel momento ti cambia la storia completamente per ore, fino alla fine del gioco. E alcuni personaggi ti muoiono o sopravvivono a seconda delle scelte che hai fatto durante tutto il gioco. E alla fine magari te lo perdi all'ultimo secondo, quando pensi, e dai, abbiamo salvato tutti, poi te muore all'ultimo e vaffanculo. Cioè, capisci? È veramente bello. Quindi è bella l'ambientazione futuristica, è bella che ci sono questi androidi ad esempio Connor, questo qui che vedete, il protagonista, no? Vedete che c'ha questa cosa luminosa in fronte perché non è un essere umano, è un androide, e quindi c'è questa cosa del mondo che ormai è, ci sono gli androidi che sono quasi umani, c'è questa lotta fra androidi e umani, chi è umano e chi no, eccetera eccetera. Quindi molto bello come affrontato. Puoi scegliere addirittura se stare dalla parte degli umani, se stare dalla parte dei robot, se fare una rivoluzione. Quindi cioè, puoi veramente scegliere da che parte stare in tutta la storia di questo gioco. Quindi secondo me questo, tra queste avventure cinematografiche alla fine, è uno di quelli fatti meglio e che mi ha coinvolto di più in assoluto, e alla fine tanto di applausi veramente, perché è stato veramente un grandissimo gioco. Te Simone che dici di Detroit? Sì, intanto si chiama Marcus il terzo. Marcus e Oscar uguale. No, me lo sono andato a vedere, non è che me lo ricordavo. E mi ricordavo lei, cara, perché comunque mi ricordo che uno dei primi trailer che fu doppiato in italiano era proprio incentrato su di lei, no? Perché c'erano i tre trailer con i tre personaggi. Tra l'altro Cara era anche un cortometraggio d'animazione che stava su, mi pare, come demo nel gioco precedente, adesso manco mi ricordo come si chiama. Comunque sì, è quello che dici tu, è tutto giusto. Io infatti sono molto entusiasta di sto gioco, anche perché alla fine secondo me è il compimento di un percorso che David Cage e Quantic Dream hanno fatto a partire da Fahrenheit fino a qui, tant'è che la demo, quando uscì la demo, ti faceva vedere, e questo anche durante tutto il gioco tu lo puoi vedere, la possibile ramificazione che si è creata con le tue scelte. E la cosa bella è che poi se tu vedevi tutto il grafico narrativo, alla fine era enorme. E devo dire, questa è sempre stata la cosa più delicata e più complicata di fare una storia interattiva di questo livello. E infatti secondo me hanno sempre un po' fallito da sto punto di vista, tranne che in questo secondo me loro sono arrivati alla maturazione giusta. Anche narrativamente non è una storia iper originale, ma è scritta bene, è funzionale, i personaggi mi piacciono, mi sono divertito. E devo dire, c'è anche dei setting che prendono anche dall'esperienza di Heavy Rain, perché per esempio la storia di Cara stessa con la famiglia, col padre sbandato in quella casa, un po' poraccia, insomma, un po' con la poraccitudine, insomma, diciamo così. Alla fine, se tu vai a vedere, ti ricorda un po' le prime sequenze anche di Heavy Rain, no? Dove lui, dopo tutto l'incidente c'era stato, alla fine portava il figlio a casa a fare i compiti, e lui viveva dentro sta casa un po' miserrima, diciamo così, no? E quindi sì, devo dire che ha funzionato da sto punto di vista. E mi è piaciuto anche in aggiunta il fatto che le conversazioni, quindi il successo che tu puoi avere nelle conversazioni, non è soltanto a culo, nel senso che vabbè, io rispondo questo piuttosto che quell'altro, ma anche le cose che tu apprendi nell'esplorazione dell'ambiente, delle situazioni, nell'investigazione, quello che tu apprendi ti sblocca praticamente delle linee di dialogo che altrimenti non sarebbero sbloccate se tu non avessi osservato la cosa piuttosto che quell'altra, che è una cosa interessante alla fine, perché chiaramente, cioè, nel senso, se tu vuoi avere successo nella primissima scena, che è quella de Connor e della bambina con l'androide impazzito o via dicendo, tu puoi arrivare al successo di quella conversazione, quindi impedire che l'androide ammazzi la bambina, solo se hai esplorato bene le cose nella casa, insomma. Quindi bello, bello, devo dire, finalmente sono riusciti a fare un qualcosa che nella loro ambizione ci sono riusciti, dai, alla fine ci sono riusciti, insomma, a fare una cosa bella. E poi secondo me altra cosa da dire, la grafica, graficamente secondo me questo spinge proprio. Sì, ma anche, veramente, ma anche, bello. Ma anche Two Souls, dai, come cazzo si Beyond chiama? Two Souls, sì, già, esatto. Era bello, ma secondo me qua c'è... Vabbè, sono passati sempre più avanti negli anni, ovviamente la tecnologia è avanzata, però qua secondo me c'è veramente un salto di qualità dal punto di vista grafico. Ad esempio nel menu iniziale, almeno per la versione PlayStation, io perché ho giocato sulla PlayStation, c'è una robot, un androide, insomma, scusate, bionda con la coda, che a una certa si vede anche qui nel trailer, che ti parla, no? È lei che sarebbe il menu iniziale del gioco. E quindi già da lì dici, minchia, cioè, quanto è fatta bene questa, cioè già dal menu di gioco vedi la qualità grafica che c'è dietro, insomma, veramente delle espressioni facciali, eccola la bionda che vi dico, lei sta nel menu del gioco all'inizio. Molto, tu lo sai, molto che particolare. Puoi interagire con lei, no? Come? Tu lo sai che puoi interagire con lei? Sì, nel menu, no? Ma poi la puoi anche liberare a un certo punto. Puoi decidere se liberarla o tenerla lì. Fare il sì, sì, sì, quello poi vabbè, anche durante il gioco, insomma, questa cosa sì. È una cosa carina. Fare. Sì, sì, è molto particolare, insomma, però ripeto, già dal menu secondo me si vede la qualità e lo studio anche delle espressioni facciali, onestamente. Secondo me è una cosa che mi ha colpito molto sulle espressioni facciali, che spesso, no, peccano nei giochi le espressioni facciali, perché sono le cose più difficili da fare, le espressioni umane, no? Soprattutto sì. gli occhi spesso sono un po' vitri, sono un po' spenti. Qui ancora ovviamente non siamo arrivati al livello tuttora di occhi vivi con l'umanità, insomma, dentro, però secondo me qui ci sta un grande passo in avanti, soprattutto dalle espressioni facciali, non tanto gli occhi che sono ancora un po' spenti, ma l'espressività c'è tantissimo, quindi questa è una cosa che ho apprezzato veramente tanto di questo gioco, che ha dato molto secondo me. Sì, e poi considera che comunque Quantic Dream, il suo engine di produzione, comunque l'engine grafico se lo sono sviluppato loro e l'hanno migliorato del gioco in gioco in una maniera incredibile, fino al trailer che hanno fatto vedere qualche mese fa, insomma, su questo nuovo gioco che stanno facendo nell'ambientazione Star Wars, che è veramente pauroso, cioè nel senso, però non credo che ci saranno sempre miglioramenti fuori, secondo me, con loro dal punto di vista di grafica, di espressioni facciali e tutto quanto, insomma, mi sembra che studino sempre di più queste particolarità dell'essere umano, insomma. Bello. Giocatelo, doppiato in italiano, quindi sì, questo recuperatelo, ragazzi, assolutamente. Sì, una buona recitazione media, niente di eclatante come doppiaggio, ma buon doppiaggio, dai. Ah, vabbè, sì, dai, ho sentito molto di peggio. Sì. Allora, Frankie dice: non ho giocato Detroit, è una grave mancanza che recupererò quest'anno. Sì, assolutamente. Questo secondo me ti piacerà tantissimo. Cerca di non far morire tutti i personaggi come ha fatto Mauro, sennò ti perdi il finale, no, tutto il gioco, insomma. Mia moglie ne direi, ne l'ha fatti morire tutti. Che poi, tra l'altro, non è che tu non vedi un finale, vedi il finale della tua storia. Sì, però il finale è più brutto, insomma. Certo, quello più drammatico, muoiono quello tutti. Muoiono tutti, succede il casino. Preso un pochino, altro, quanta amarezza, insomma. Quanto dolore. Intanto, una buonasera anche a Mattia. Ciao, buonasera, visto che sei arrivato con i Quantic Dream. Francesco dice: di trois bigome humain, così ha scritto. Simone dice: sempre la bambina muore. Sempre. Ormai è rimasto impresso: la bambina muore. Nico dice: l'ho iniziato ma poi mi ero rotto. No Nico, no, non puoi farci questo. Dagli una seconda opportunità, perché questo che gioco dolore, è veramente dolore. Stupendo. Cosa, Simone? No, che dolore. Un po' dolore. Ok, andiamo avanti al volo. Questa non voglio saltarla perché l'ho portata tutta sul canale ed è stata una delle prime avventure che ho portato complete. È stata lunghissima, questa è veramente lunga come avventura. Infatti, quanti video ho fatto? 25, una cosa simile. Cioè, è stata lunghissima questa avventura, tutta in inglese, pienissima di dialoghi, e quindi l'ho tradotto tutto, una fatica. Si chiama Lamplight City, un gioco che secondo me non si è cagato nessuno, un peccato, perché questa è veramente una bella avventura. Anche se è lunga non annoia, a me non mi ha annoiato assolutamente. Noi siamo questo personaggio che, come al solito, ha tante problematiche nella sua vita privata, quindi classico detective che però è turbato e disturbato, insomma, nella sua vita privata. Soprattutto ha un senso di colpa molto grande che non lo lascia in pace e lo perseguita per tutta la durata del gioco, e a seconda delle nostre scelte ci possono essere tre finali differenti. A noi è uscito un finale medio, né buono né cattivo, insomma, poteva andare meglio, poteva andare peggio, ci è uscito un finale medio alla fine. Poi mi sono vista gli altri finali per curiosità, e ci sono, noi quindi dobbiamo investigare tantissimi casi, classica cosa che poi alla fine tutti questi casi un po' sono collegati l'uno all'altro. E graficamente mi piace molto questo sorta di pixel, e come dicevo prima, questo è proprio Gabriel Knight il primo. Cioè, dimmi che non è Gabriel Knight, i dialoghi sono tutti così. Quindi ci sono le varie scelte del dialogo, il nostro personaggio e la persona con cui stiamo parlando in quel momento. Ci sono tantissime location che cambiano appunto a seconda dei casi. I casi mi sembra siano sempre più o meno 5 o 6, una cosa simile. E uno più interessante dell'altro, spiegati tutti bene. C'ha un inizio, c'ha una fine, c'ha una spiegazione finale. Quindi non è quel classico gioco che ti lascia interdetto, no, il finale non lo capisci, non è spiegato. E quindi onestamente questa io non ho capito perché sia passata così tanto in sordina, almeno qua in Italia, forse perché è tutto in inglese ed è pieno di dialoghi, non lo so, però obiettivamente non credo che sia molto famosa. E se non sbaglio in italiano, almeno all'epoca l'ho portata soltanto io, però capisco anche perché è stato un mazzo starlo a tradurre tutto, quindi capisco anche il perché. E l'ho apprezzato tanto, e chi l'ha seguito gli è piaciuto, anche se all'epoca eravamo ancora in pochi sul canale, però chi l'ha seguito l'ha apprezzato. Te Simone che dici di Lamplight City, lo conosci, l'hai giocato, ti è piaciuto? No, non l'ho giocato, lo conosco nel senso che se ne parlò molto prima del lancio, insomma era stato molto considerato ed è anche molto considerato pure dalla critica, che ho visto insomma alla fine è sempre stato comunque commentato bene, ho visto pure le recensioni di Calavera, insomma però no, un gioco, cioè sapendo che era troppo lungo totalmente in inglese, so che vado su Pixel Deb e me lo vado a vedere, tra l'altro iscrivetevi, attivate la campanella perché insomma mi raccomando, dobbiamo arrivare ai 900 adesso, 900 altro su Flip Party poi. No, tra l'altro l'unica cosa che dico è che quando tu hai detto il primo piano sui dialoghi, no, tipo Gabriel Knight, mm-hmm. ma in realtà c'era anche Cruise for a Corpse, non so se ve lo ricordate. Sì, anche Cruise for a Corpse lo faceva, Delphine c'aveva questi primi piani così, ma in realtà negli anni 80-90, anzi negli anni 90 diciamo, era abbastanza ricorrente questa cosa. Comunque, no, per il resto no, non l'ho giocato, quindi non mi esprimo. Questo se ti capita, certo ripeto, è lungo ed è tutto in inglese, parlano molto, quindi devi avere un po' di pazienza, però secondo me è una pazienza che viene ripagata perché è fatto bene, è un investigativo fatto bene, ripeto i casi sono tutti interessanti, cioè se non è che dici sai vabbè i casi un po' dimenticabili, chi se ne frega, insomma no, e poi sono fatti così bene che comunque alla fine raccogliendo gli indizi, parlando con le persone, obiettivamente si arriva a capire chi è stato, perché, come, capisci, non come l'altra sera sempre con Chapter One che abbiamo fatto un po' a cavolo perché non si capiva chi era stato, perché l'avevano tagliato in maniera esagerata quel caso lì, eh. Quindi questo no, dall'inizio alla fine ha fatto bene e poi ripeto, a seconda di determinate scelte poi ti cambia anche il finale, possono essere tre, che poi esiste i creatori di Golden Wake che volevo provare, anche se ho sentito da tanti dire che è abbastanza soporifero, un po' noioso questo Golden Wake, però vorrei provarlo una volta, non so se tu hai giocato a Golden Wake. No, non neanche, però devo dire che questo no, me lo guarderò sul canale volentieri, Ora però che come ha detto Simone sono 23 video. Vabbè, ma io guarda che sono maratoneta di YouTube. Sei maratoneta. No, ma poi anche uno se lo guarda un po' per volta, te lo guardi come una piccola serie TV, no? Stesso se lì ogni tanto c'è una puntata. Sì, anche perché obiettivamente è come se fosse una serie TV classica col detective e deve risolvere i casi e alla fine poi si ricollega al tutto, no? Quindi sì, classica serie TV veramente questa. Ecco, ad esempio questo, se non sbaglio, mo vabbè, è passata una vita da quando l'ho giocato, se non sbaglio questo è un detective che però poi non deve fare le pippe mentali per collegare le cose, come abbiamo detto prima, no? Tutti i giochi di detective una certa fanno le pippe mentali per collegare quello con quello, quello con quello. E questo no, questo non mi sembra che faccia questa cosa, non mi ricordo, quindi è un detective che non fa quella cosa dei collegamenti mentali, insomma, quindi te lo salti qua. Allora, Mattia dice bello Lamplight City, sto giocando giusto ora a Golden Wake degli stessi autori. Ecco, facci sapere se a Golden Wake ti sta piacendo o come ho sentito dire è soporifero, noioso, balloso. Fammi sapere che sono molto curiosa perché lo vorrei recuperare. Nico dice in Pentiment si parla molto, quindi non mi spaventerei. Sì, anche lì si parla tanto e anche questi parlano tanto obiettivamente. Quindi se avete la pazienza di leggere 700.000 dialoghi in inglese, questo va benissimo, insomma. Ok, andiamo avanti. Come Simone, scusami? No, fa per voi, dico, se... Se volete, tranquillamente lo recuperate. Insomma, ripeto, io l'ho trovato veramente un bel gioco, una bella avventura. Qui invece di questo dobbiamo parlare assolutamente, perché adesso che stiamo per finire finalmente quel maledetto Sherlock Holmes, giocheremo a Life is Strange 2, che mi è sempre stato consigliato dal mitico Simone Pizzi. Perché io ho giocato il primo, e come vi dicevo non mi aveva detto niente di che, ho giocato True Colors, e se avete visto la mia top 10 dei giochi che ho giocato nel 2022, l'ho messo al primo posto, mi è piaciuto da morire, e quindi adesso devo recuperare il secondo, che onestamente l'ho un po' snobbato, però il buon Simone mi ha detto no, recuperalo, perché in verità merita anche questo qui. Quindi parlaci tu di questo, dato che io ancora non l'ho giocato. Allora, ma innanzitutto tutta la saga di Life is Strange comunque per un motivo o per un altro è interessante. A me, cioè, forse l'unica cosa che mi ha sempre un po' fatto storcere la bocca è questo aspetto del paranormale, ci deve stare per forza, anche in storie che magari potrebbero pure benissimo non averne bisogno, però ci sta. E la cosa bella è che ogni capitolo è comunque molto diverso dagli altri, quindi in realtà tu dici ok, è Life is Strange, so cosa aspettarmi. In realtà no, secondo me in particolare questo secondo capitolo, che tra l'altro si collega al primo per un personaggio che ritornerà, anche se molto di straforo, e che riconsidereremo in qualche maniera, nel senso, comunque cose che magari, idee che ti hai fatto in una certa maniera, ma magari comunque alcune cose le riconsidererai, ecco, diciamo così. Per il resto è la storia di questi due ragazzini che devono fuggire, perché succede una cosa all'inizio del gioco, e essendo loro poi alla fine dei figli di un immigrato messicano, loro stessi sono poi alla fine dei messicani, e devono, nella loro fuga, praticamente fanno questo enorme viaggio on the road negli Stati Uniti, nel tentativo di raggiungere il Messico, quindi andando sempre più nello sprofondo degli Stati Uniti, nella parte più a sud degli Stati Uniti, facendo questo viaggio in un delirio, diciamo, sociale, culturale, che a noi sembra molto distante, ma in realtà negli Stati Uniti è abbastanza, insomma, quotidianità, diciamo, ecco, per certi versi, in certi determinati contesti, in certi stati, quindi vedremo iperreligiosismo, vedremo il razzismo, vedremo la diffidenza, vedremo anche la violenza, la droga, c'è di tutto, veramente dentro questo gioco c'è questo percorso, questa storia, c'è veramente di tutto, con eventi anche drammatici, anche delle conseguenze, diciamo, come posso dire, definitive, cose che alla fine, cioè, tipo ferite, insomma, che rimarranno, insomma, quindi cose come abbastanza pesanti che succederanno, e che tutto sommato alla fine comunque rendono questa storia, che inizia, che sembra una sorta di trinopera, per diventare poi alla fine un percorso, un'odissea praticamente, un continuo dramma all'interno, insomma, di questo viaggio. Ecco, diciamo, è vero quello che mi è stato detto poi alla fine magari da alcune persone, dicendo sì, è vero, tratta tutta una serie di temi, ma lo fa in una maniera abbastanza stereotipata. Sì, anche perché non è diciamo una storia politica, cioè non è quella la sua intenzione. La sua intenzione è quella di raccontare questo disperato tentativo di due fratelli di salvarsi e di rimanere uniti, comunque, in qualche maniera. E poi tutto quello che è intorno a loro proverà non solo a fermarli, ma anche a separarli, che è la cosa forse più drammatica a un certo punto, perché con l'evento che succede all'inizio del gioco, l'unica certezza che loro hanno è uno nei confronti dell'altro, no? Quindi alla fine sì, forse alcune cose sono trattate in maniera non così, diciamo, forse matura, però è sicuramente molto più matura del primo, perché comunque i temi sono tosti, sono delle cose, insomma, che ti rendi conto, insomma, in che condizioni, in che situazioni, in che diciamo brutte situazioni alla fine si trovano questi due per riuscire a campare in qualche maniera e raggiungere il loro obiettivo. Quindi secondo me merita, i personaggi sono abbastanza credibili, perché lui è un adolescente, cioè un post adolescente, insomma, un ragazzo, metti, diciamo, 17 anni, quindi non è abbastanza maturo, ma comunque deve esserlo per forza. E l'altro è comunque tutto sommato un ragazzino, con tutti i problemi e i limiti che c'è un ragazzino. Ecco, secondo me ha funzionato sta cosa, non me l'aspettavo, devo dire, sono rimasto sorpreso, perché non mi aspettavo di vedere tutto questo questo cinismo all'interno di una storia, insomma, che racconta veramente un'America in maniera molto impietosa, cioè proprio, diciamo, molto diretta e molto impietosa. Ecco, sì, questo è l'elemento più importante. Quindi poi magari, dico, te lo giochi e magari non percepisci questa drammaticità, però, cioè, diciamo che secondo me la storia ci prova moltissimo. Però poi il resto è un Life is Strange classico, quindi ogni tanto succede che uno dei due c'ha il potere paranormale che in qualche maniera risolve, però molto più moderatamente rispetto al primo, e secondo me anche molto più moderatamente rispetto al terzo, cioè che poi, se consideriamo ovviamente True Colors il terzo, perché poi hanno smesso di dargli i numeri e gli hanno dato un titolo. Una certa dice basta i numeri e mettiamo i titoli. Vabbè, lo scopriremo a breve, signori, perché tanto adesso manca pochissimo per finire Sherlock Holmes Chapter 1 e poi insieme ci godremo questo viaggio di questi due fratelli, allora. E approfitto per chiederti, quindi prima di giocare questo però dobbiamo giocare al gratuito Captain Spirit? Allora, The Amazon Adventure of Captain Spirit, io ve lo consiglio. E va giocato prima però di Life is Strange 2? Prima, sì, okay. Sì, perché... E c'è un motivo poi che capisci durante il gioco, anche perché non c'è solo la cosa che hanno fatto vedere 50.000 volte anche nei trailer, che comunque loro si incontrano in qualche maniera. Cioè sì, lui... infatti si vedeva il bambino mascherato pure, esatto, il biondino, no? Il bambino con il... Ma in realtà poi ci sono dei personaggi di contorno che sono importanti, insomma, che ritornano poi dopo... Perché in realtà i due fratellini messicani, c'è un motivo per cui stanno quel momento lì, in quella situazione. Okay. E secondo me e devi avere, diciamo, meno importante aver giocato il primo, perché poi, come ho detto, ci sono un personaggio che ritornerà, così come anche su True Color ci sono dei riferimenti a delle cose che riguardano gli altri personaggi, insomma, che sono già apparsi nelle varie storie, insomma, quindi alla fine c'è sempre un minimo di collegamento tra le cose. Allora, Captain Spirit, devo dire la verità, non è un capolavoro, anche perché oltre a essere gratuito è anche abbastanza veloce, però devo dire che alla fine vorrei entrare nella psicologia di sto ragazzino, poverino, cioè nel senso... Comunque tutte storie drammatiche, alla fine... Cioè, vabbè, ma a noi ci piacciono quelle drammatiche, i traumi. Esatto, insomma, quindi alla fine... Cioè, sono le cose che piacciono a noi, insomma. Esatto. Come adesso voglio prendermi il gioco, quello lì, Room of Depression, perché insomma, già dal nome... Quello solo il titolo... Quello lo titolo. Dobbiamo giocare assolutamente, Room of Depression. Vabbè. Siamo. Morte e devastazione, uno lo compra subito. Sempre, quindi. sempre. Ma soprattutto problematiche di traumi e cose simili. Ah, che belli proprio. E quindi niente, quindi a breve giocheremo quindi Captain Spirits e Life is Strange 2. Quindi tutti pronti, mi raccomando. Allora, intanto Mattia dice: a Golden Wake è particolare a livello narrativo perché parla di un agente immobiliare che, detta così, è tutt'altro che esaltante. Invece devo dire che scorre bene ed è interessante. Credo molto più breve di Alan Plight City. Ah sì, io pure lo volevo giocare da tempo, però ne ho sentito sempre parlare male ed ero curiosa anche di capire perché ne parlassero così male. Simone dice: il ragazzino muore, giusto? Ormai è niente, il mood della serata. E... No, la ragazzina muore, ricordatevi che è sempre la ragazzina. Una ragazzina muore, non il ragazzino. Frankie dice: Life is Strange, il primo mi ha segnato, quindi a lui è piaciuto molto il primo, a me invece il terzo proprio tantissimo. E Mattia ci dà la buonanotte. Notte Mattia, grazie di essere stato qui. E niente, poi quando è ti recuperi gli ultimi giochi di cui parliamo, tanto anche stasera sto tagliando qualcosina perché sennò non facciamo in tempo. Comunque se tu vedi, cioè nel senso, nei tre capitoli che vanno giocati tutti e tre, il problema è che tu hai già giocato True Colors, che sì, secondo me questo in qualche maniera un po' può essere un limite, no, da un certo punto di vista, perché dal primo al secondo a True Colors c'è proprio un'evoluzione, non solo dal punto di vista narrativo e tecnico, ma proprio dello spessore della storia, perché il primo è comunque alla fine è una teen opera dentro al liceo, il secondo è un on the road con questi due ragazzini che è già un po' più drammatico, il terzo sono proprio più maturi i personaggi, sono più adulti, capito? Infatti, quindi dal primo al terzo c'è stato proprio, secondo me, un salto di qualità impressionante, però va bene, terrò in conto, insomma, comunque il fatto che questo è uscito nel tuo giudizio nel mio giudizio terrò in conto quello. Allora, passiamo al volo al 2019 con un'altra avventura che ho portato sempre tutta sul canale, subito dopo Katie Rain, in verità, ossia Whispers of a Machine. Allora, questo qui praticamente è stata un'avventura sempre, insomma, scientifica, futuristica, interessante, dalla grafica pixellosa. Mi è piaciuta anche il tipo di grafica, mi è piaciuta molto la protagonista, soprattutto come è stata fatta, come fisionomia, insomma, come è stata fatta, molto carina. È uno di quei personaggi che secondo me sono caratterizzati bene, insomma, sono fatti bene, ti rimangono impressi. Non è il classico personaggio che poi dopo un po' ti dimentichi, perché comunque insomma è fatta bene. È un'avventura che ho giocato volentieri e anche qui ci sono due o tre finali, se non sbaglio. Noi, mi sa che è uscito sempre uno medio, quindi né il migliore né il peggiore, tendenzialmente ci esce quello medio tipo. E gioco secondo me giusto e lungo, questo qui non è né lunghissimo né brevissimo, quindi tipo Katie Rain, cioè alla fine la lunghezza pure è abbastanza simile a Katie Rain, perché gli editori sono sempre Rawfuri, mi sa che anche quell'altro era Rawfuri se non sbaglio, però gli sviluppatori mi sa sono diversi, con quelli di Katie Rain non credo siano gli stessi. E allora questa cosa interessante e particolare di questa avventura, vabbè, la storia comunque è carina, sempre lei detective che deve indagare su che è successo, bla bla bla, va bene, questa classica cosa che non è innovativa in un mondo futuristico, anche questo non è innovativo. La cosa interessante è che lei ha delle sorte di non sono poteri, sono delle skill, delle qualità che lei ha a seconda di come facciamo che lei, scegliamo che lei sia caratterialmente, quindi se è una persona che affronta le cose ragionando, se è una persona che affronta le cose invece a 2000 senza ragionare, in maniera più avventata, più violenta, eccetera eccetera. Quindi a seconda delle nostre scelte iniziali lei diciamo opterà per un tipo di carattere e questo sblocca delle abilità che sono queste che vedete qua sotto, e piano piano se ne possono anche sbloccare altre, e queste abilità ci possono far risolvere il caso in un determinato modo. Quindi è anche rigiocabile, perché volendo si può fare, che ne so, una volta che lei è una persona che è molto riflessiva, una volta che invece lei è una persona che non riflette va a 2000, e quindi puoi risolvere il caso e le situazioni in maniera diversa a seconda delle abilità che lei ha sbloccato grazie al suo carattere. Quindi questa è una cosa che ho trovato interessante, perché obiettivamente ci sta, no? Cioè, nel senso, se io sono un agente di polizia riflessivo, sicuramente a seconda delle cose che devo affrontare, a seconda delle situazioni, delle persone che incontro e quello che mi dicono, ragionerò su determinati dettagli e quindi affronterò la cosa ragionando su, che ne so, oh guarda, lì ci sta quel file che posso ricollegare con quello, quell'altro ha parlato di quella cosa, e quindi affronto il mistero, insomma, quello di cui sto investigando in un modo razionale. Se invece sono una persona che affronta le cose a 2000, sicuramente io come poliziotto in quel caso sarei una persona che ragiona poco ma va istinto, un po' come fosse Kirk e Spock, no? Che uno affronta le cose in maniera razionale e l'altro invece si butta a capofitto senza ragionare un attimo. E quindi è carino, no? Perché lei può fare la stessa cosa e affrontare queste storie in questo modo. Quindi questa è secondo me la cosa più particolare e interessante del gioco. Poi il resto è un'avventura abbastanza classica, insomma, carina. Sì, obiettivamente questa è un'avventura godibile. Godibile, ripeto, con tre finali differenti, se non sbaglio. Appunto a seconda di come noi abbiamo vissuto poi tutto il gioco. Quindi io questa, ragazzi, ve la consiglio. Una lunghezza giusta, insomma intorno alle 8 ore più o meno se non sbaglio, quindi godibile, godibile. Tu questa la conosci, l'hai giocata, raccontaci. No, conosco sempre, conosco un po' tutto, però no, non l'ho giocata, quindi non te so di niente. Ma ti incuriosisce un pochettino? Non lo so, boh, devo dire sì, forse sì, però non in questo momento perlomeno, cioè, diciamo, non è il momento adatto per giocare delle cose sul gruppone, come si dice, insomma. Dice, c'è no così tante da giocare le cose che no. Anche perché mi è uscito Star Trek, quindi. Mamma mia, anche tra l'altro niente, neanche la traduzione con i testi, cioè veramente camarezza. Infatti il testo almeno lo potevano fare. Invece questo qui mi sa che c'è il testo in italiano. Sì, questo qui è il testo in italiano, quindi non c'è neanche bisogno di stare a tradurre tutto il gioco. Ci sono abbastanza dialoghi anche qui, però tipo un Katie Rain, insomma, non come Lamplight City che erano 700 milioni di dialoghi, una cosa normale. Non ci sono tanti enigmi, se non sbaglio, comunque è più una questione di affrontare le cose a seconda del carattere di lei e delle abilità che ha sbloccato, più che altro. Però per il resto non mi sembra che ci siano tantissime cose, onestamente, tanti enigmi eccetera, soltanto quelli che lei sblocca. Però molto gradevole, molto gradevole. Beh, comunque come modalità interessante, devo dire. Sì, sì, sì, questa cosa a me ha colpito. Infatti la cosa che mi ricordo di più in assoluto è proprio questa, che cambia le abilità a seconda del carattere che ha la protagonista. Questa è una cosa che ho trovato veramente innovativa, particolare. Allora, leggiamo un attimo. Ciao Enrico è arrivato. Ciao Deb, ciao Simone, buonasera a tutti. Buonasera Enrico, qui non vediamo le avventure, ormai siamo verso il 2019, quindi ci avviciniamo alla meta. Incredibile. Sempre saltando qualcosina, però sai, ce la possiamo fare. Nessuno cita Before the Storm. Ecco, a Simone ad esempio Before the Storm è piaciuto, vero? Avevi detto l'altra volta. Sì, è vero, me l'ero dimenticato. Ma, allora, ha piaciuto è una parola grossa. Diciamo che secondo me va giocato anche quello, perché aggiunge degli elementi che, cioè, alla va giocato, non è assolutamente indispensabile, cioè non aggiunge cose del quale tu dici cazzo, ne sentivo proprio il bisogno. Però insomma, diciamo che è, come dicevamo su, parlando di Life is Strange, no? Del primo, che poi alla fine è Chloe il personaggio più interessante, infatti è una miniserie di 3 episodi tutti incentrati su Chloe e la sua amicizia con Rachel, che è un po', diciamo, poi quello che diventa un po' la chiave di volta di Life is Strange 1 dalla seconda parte in poi, no? Perché poi alla fine, cioè, c'è la storia di Rachel, no? Che diventa focale, diciamo così. E quindi è interessante. Devo dire che il personaggio è credibile, cioè lo hanno reso credibile, essendo tutto fondato su Chloe. Devo dire che Chloe è quello che conoscevamo, e vediamo una Chloe qualche anno prima, diciamo, insomma, dei vari eventi, e quindi insomma è particolare perché è credibile, diciamo, è coerente, il personaggio è fatto bene, quindi lei farà sempre le solite stronzate, farà le cose che non dovrebbe fare, e insomma poi si butta in questa amicizia, tra virgolette, amicizia con Rachel, ed è interessante. Comunque secondo me è tutto sommato interessante, e poi c'è un capitolo aggiuntivo che è puro fanservice inutile, che è praticamente Chloe e Max quando erano bambine che giocavano nella stanza, assolutamente insignificante e inutile, ma proprio per fare il revivalismo così, insomma. Il momento puccioso proprio. Sì, sì, un momento anche triste, volendo, insomma, però. No, io Before the Storm non l'ho giocato, quindi non ne ho idea. Ah, diciamo che non è così indispensabile, però insomma diciamo che capisci meglio alcuni personaggi, cioè, perché comunque è più focalizzato anche sulla famiglia di Chloe, perché Chloe è così, capito? Quindi tutta una serie di cose che già intuisci nel primo, cioè non è che alla fine sono cose che oddio, non lo immaginavo, però lo approfondisce un pochino, insomma. C'era, me lo so giocato, insomma, non so manco se ce l'avevo gratis, devo dire la verità. Allora, invece Simone dice: interessante giochino per Whispers of a Machine. Nico ci dà la buonanotte. Notte Nico, grazie di essere stato qui. E Mattia dice: anche Whisper bello, grosse soddisfazioni ci stanno dando questi anni. Esatto, esatto. Infatti noi perché stiamo vedendo, insomma, ormai dal 2000 al 2020? Perché, ripeto, abbiamo visto dal 2000 al 2009 il crollo, secondo me, delle avventure grafiche. Insomma, quei 9 anni sono messe uscite più cagate che giochi belli. E dal 2010 al 2020 invece c'è stato veramente un'impennata, secondo me, con tante soddisfazioni, tante innovazioni, tanti modi diversi di raccontare le avventure. Quindi secondo me è stato un bel decennio, quello successivo, insomma, bello bello, quindi tante soddisfazioni obiettivamente. Allora, vediamo al volo, sempre 2019, Blacksad, altro gioco che abbiamo giocato sempre sul canale, altro gioco che io ho adorato tantissimo. Mi è piaciuto così tanto che ho comprato anche il fumetto, perché questo è sviluppato dai Pendolo, che sono un po' amichetti miei comunque, i Pendolo, che vi dicevo anche l'altra volta, che sono i creatori di Hollywood Monsters e anche di Vertigo. Quindi io con i pendolo vado abbastanza d'accordo, dai, non tutto, ma vado abbastanza d'accordo. E che sono spagnoli, e il fumetto da cui è tratto, Blacksad, se non sbaglio, è sempre spagnolo. E il fumetto pure, ragazzi, è bellissimo, c'ha dei disegni meravigliosi, se vi capita, insomma, di prenderlo, ve lo consiglio, perché oltre che i disegni sono molto belli, è molto carino da leggere. Allora, io adoro gli animali antropomorfi, quindi vabbè, a me già piace in partenza questa cosa. Il gatto è il mio animale preferito, questo gattone assomiglia anche al mio gatto e quindi diciamo che è partito bene già a priori. Come giocabilità è il classico detective che deve scoprire cos'è successo, ci sta il caso, bla bla bla, se non sbaglio sono sempre tipo 5 episodi, una cosa simile. Mi sono divertita dall'inizio alla fine, mi è piaciuto tantissimo lui come personaggio. La giocabilità ricorda un po' Telltale, perché ci sono comunque dei momenti, quei quick time event anche, tipo ad esempio quando adesso è stato preso per il collo, no? Quindi quando devi combattere ci sono i quick time event. Ci sono tanti personaggi con cui parlare, tutti particolari, insomma tutti fatti bene, onestamente. Cioè, è tutto secondo me dettagliato, fatto bene, tutti i tipi di animali che incontri sono tutti particolari. Cioè, si vede comunque, secondo me, che è tratto da una storia già fatta, perché veramente tanto dettagliato. Il fumetto, almeno comunque io ho letto il primo, è un po' diverso da qui, anche perché il fumetto c'ha anche, è un po', anche un po' zozzo a volte, insomma ci sono delle immagini comunque di lui che si diverte con varie donne, se si possono chiamare donne, insomma vabbè, varie femmine di animali vari, insomma. E quindi io l'ho trovato molto divertente e onestamente lo consiglio. So che magari a tanti il fatto che gli animali siano antropomorfi li possa bloccare, non è la prima volta che lo sento questa cosa, però secondo me gli dovete dare una chance, perché comunque la storia è seria, è fatta bene, e poi ti affezioni tanto al protagonista. Io a John Blacksad mi sono veramente molto affezionata, e il caso poi è molto interessante, onestamente è spiegato bene, ricollegato bene, spiega il tutto alla fine, non lascia niente in sospeso, molto molto godibile anche graficamente, ripeto, l'ho apprezzato veramente tanto. E poi ci sono i sottotitoli in italiano, quindi neanche dovete starla a tradurre, e al momento c'è anche un bel 60% di sconto, se vi interessa, insomma lo trovate a un buon prezzo. Te, Simone, hai giocato? Ti piacciono gli animali antropomorfi? Ti danno fastidio? Racconta. A me non piacciono gli animali antropomorfi, ma questo è un signor gioco. Allora, è una detective story con un po' di Charles Bukowski e un po' di noir, anzi un bel po' di noir. Sì, molto noir, sì. Stile noir, proprio riccamente, insomma, esplicitato, e con una storia articolata, ricca di personaggi e di situazioni. E devo dire che qui è Pendulo che a un certo punto ha fatto il salto di qualità dal punto di vista anche tecnico, passando dall'avventura classica allo stile Telltale, che poi porterà al suo compimento con Vertigo, no? Quindi, e con Tintin che sta per uscire, insomma, sta per oddio uscire, quanto insomma lo voglio giocare. Mi è piaciuto tantissimo il film di Spielberg, che praticamente ha la stessa grafica, mi è piaciuto tantissimo su Tintin. Quando esce il gioco con la stessa grafica pure, proprio boom, no, bellissimo. Io il film non l'ho visto. Te lo consiglio, molto molto bello. Sono stato un fan del personaggio da quando ero bambino, cioè io però avevo 5-6 anni quando facevano la TV dei ragazzi, c'erano solo 2 canali televisivi, cioè quindi se tu capisci, no? Quindi io ho avuto paura di vedere il film, però poi mi sono pentito di questa cosa, poi è passato e va bene. Però quando ho visto il trailer di Pendulo, cioè mi si è sciolto il cuore per me, quindi per me vedo l'ora proprio. Guarda, recupera il film, perché c'è la manina di Spielberg che si vede, insomma, è fatto veramente veramente bello, bene. Io ero andata al cinema con Gabriele a vederlo, stavamo tipo incantati a guardarlo, sia dal punto di vista grafico, ma proprio la storia, tutto. Infatti in teoria doveva uscire poi un seguito e non pare non l'abbiano più fatto, e io e Gabriele abbiamo rosicato molto, perché è veramente bello il film di Tintin, ci è piaciuto veramente tanto. Ma magari poi in qualche maniera lo recupereranno con il successo del videogioco. Ecco, comunque questo è veramente un bel gioco, ragazzi, cioè particolare. Ho detto sì, devi, cioè, se non siete amanti dello stile appunto dell'animale antropomorfo, che poi non è l'animaletto antropomorfizzato, qui sono proprio personaggi seri, sì, cioè sì, nel senso, sì, sì, sì, con una certa caratura, solo che sono animali, cioè nel senso devi accettare questo compromesso, però è anche lo stile, quindi, cioè, nel senso devi anche apprezzare il fatto che è proprio questa scelta stilistica. Ed è bello, questo è veramente un bel gioco, ragazzi, cioè, merita assolutamente. E questo quasi a conclusione di un decennio che, come abbiamo detto, in effetti è stato il momento di recupero anche culturale dell'avventura grafica e delle varie derivazioni narrative successive, insomma. Bello, bello, questo mi è piaciuto proprio. Sì, sì, sono d'accordo. Ripeto, è stato interessante secondo me fare questi 20 anni di avventura, no? Perché, cioè, almeno per me è stato proprio una involuzione dal 2000 al 2009 e poi invece una grande evoluzione dal 2010 al 2020, perché tanti bei giochi, ma belli proprio, e soprattutto tanta innovazione, tanti stili differenti di raccontare un'avventura, quindi sono molto contenta. Poi adesso, insomma, anche in questi altri 3 anni le cose stanno continuando così, ne escono sempre di più, anzi con tutte le avventure indipendenti continuano a uscirne sempre, quindi io sono molto molto contenta di questa cosa, soprattutto il fatto che anche in Italia ormai ne sviluppano sempre di più e questa cosa mi fa sempre piacere, quindi c'è veramente un'impennata delle avventure, questa cosa mi fa piacere, soprattutto anche di visual novel, che era una cosa che io un po' avevo, mi ero calcolata poco, insomma, visual novel ho sempre fatte poche, invece ultimamente ne sto recuperando tante, mi stanno piacendo tanto anche quelle, quindi altro modo di raccontare una storia, anche quelle sono molto belle. Beh sì, quello italiano lì, di quel giallo, no, del tizio che sì, l'ho portato pure quello sul canale, mi è piaciuto molto. Dry Drowning, quello molto, quello, quella è una storiona, quello, cioè, è ragazzi, molto bello, sì. Se no, non sono un fan in generale delle avventure, sì, delle avventure delle visual novel, proprio perché a volte l'ho trovate un po' limitative, no, da un certo punto di vista, poi perché sono un genere che spesso è molto sbilanciato verso la cultura giapponese e io non è che sono proprio ipercompatibile con quel tipo di cose lì, però ecco, quando poi ci stanno visual novel come quella, insomma, sì, io pure Eliza mi è piaciuta tantissimo, quella sì, proprio sì. tanto, vabbè, quello parla di roba di psicologia, quindi capirai. Sì, però fatto bene, perché ne ha parlato bene pure Francesco, sì, infatti gliel'avevo parlato lui quando mi aveva invitato a parlare su Instagram sul suo canale. E poi l'ha giocato, gli è piaciuto anche a Francesco, insomma sono molto contenta perché è veramente un bel gioco, una bella visual novel. Allora vediamo un attimo i commenti. Allora Simone, eccolo, tanti cuoricini, appena ha visto Blacksad, lui è piaciuto. Mattia dice: io Blacksad lo conoscevo prima con i fumetti, bellissimi, oppure la tazza, no, voglio vedere la tazza, manda la foto ti prego. Pippe Mentari, non dimentichiamoli, diceva Simone, boh, chissà che abbiamo detto, non so. Il gioco ad un certo punto mi sarà buggato e non poteva andare avanti, l'ho ripreso dopo alcune patch e ne è valsa la pena. Ah, pensa un po', meno male, io invece l'ho giocato un bel po' in ritardo e quindi non abbiamo avuto problemi, fortunatamente. Non è tratto da un fumetto, è una storia totalmente originale con la consulenza dell'autore, ovvio. Ok, però Blacksad c'è comunque il fumetto, cioè comunque lui è detective, un gatto è questo, no, cioè comunque è tratto che da un fumetto, però la storia magari è indipendente, quello sì. Sì, che nel senso che essendo ispirato al fumetto, ispirato al fumetto. La storia è totalmente indipendente, insomma. Sì, questo. Sì. Francesco dice: sempre ha tirato Blacksad, mi hai convinto. Ah, vedi, hai aggiunto alla lista desideri, allora. Sì, guarda, assolutamente, non te ne pentirai. Einet dice: mi era piaciuto parecchio Blacksad, adesso voglio pure il fumetto. Sì, Einet, assolutamente, sono bellissimi i disegni. Francesco dice: figo Eliza, davvero, lucidissimo e credibilissimo. Esatto, veramente bello Eliza. Allora signori, al volo al 2020, altro gioco italiano, sempre fatto sul canale. Tanti hanno avuto da ridire su questo gioco, a me è piaciuto tanto. Io sento sempre commenti molto negativi su questo gioco e invece io l'ho apprezzato veramente parecchio. Ossia Virtuaverse, questa è un'avventura cyberpunk pixellosissima e che, ripeto, abbiamo giocato tutta sul canale e io l'ho apprezzata tantissimo e mi ricordo che il finale mi ha preso così tanto che praticamente il video finale è stato tipo 2 ore e mezza, una cosa simile, perché ormai lo volevo finire e quindi è venuto lunghissimo il video finale, e a me è una storia che mi ha coinvolto veramente tantissimo. Allora, è stato criticato da tante persone per il fatto, perché comunque è esageratamente nerd, nel senso di nella parte del computer, quindi ci stanno addirittura dei codici. C'è il codice ASCII, che è stato il momento in cui io ho veramente smadonnato, perché non riuscivo a capire questa cosa del codice ASCII, e infatti ho dovuto, se non sbaglio, anche barare una certa, non mi ricordo, comunque l'ho fatto a culo, no, forse l'ho fatto a culo, non mi ricordo. C'è un pezzo in cui c'è una cosa del codice ASCII che è una sorta di labirinto, poi io odio i labirinti, e per riuscire a capire dove devi andare devi risolvere questo codice. Che però per persone come me, che obiettivamente di tutto ciò che ha a che fare con la programmazione, dell'informatica, eccetera, che non sa, cioè sanno solo magari dell'esistenza, però non ne sanno nulla, magari è un po' esagerato. E sotto questo punto di vista posso anche comprendere la critica che gli hanno fatto. Però, cioè, non possiamo rovinare un gioco soltanto perché quell'enigma è esageratamente complicato. Perché poi dietro invece c'è una grande storia, c'è una grande qualità grafica anche, perché secondo me è una bellissima pixel art questo gioco. C'è un bel racconto e addirittura c'è un bel finale, io non ci posso credere, questo gioco c'è anche un bel finale. E però ci sta anche, secondo me, che parlino anche di programmazione, perché comunque loro sono un gruppo di hacker. Quindi ci sta che a una certa, un minimo, devono parlare di programmazione. C'è da dire che, ripeto, per persone ignoranti come me sull'argomento, magari potevano parlarne in maniera o più semplice o meno approfondita. Secondo me si perdono un po' nell'approfondimento troppo esagerato di questo settore, che magari per persone come me, ripeto, diventa complicato. Però al di fuori, ripeto, di questo cacchio di codice ASCII, il resto del gioco è stato giocabile, non ho avuto problemi e mi sono divertita molto a giocarlo, l'ho trovato molto vario, molto interessante, ripeto, sia il tipo di storia, poi il finale mi è piaciuto un botto, quindi a me già che il finale mi è piaciuto un botto hanno vinto assolutamente. E sono contenta perché questo gioco comunque anche all'estero ha avuto grande successo, ne hanno parlato tantissimo, quindi un gioco fatto in Italia che comunque è stato riconosciuto, non so a livello mondiale, però comunque anche all'estero ne hanno parlato tanto, l'hanno giocato tantissimo, quindi di questa cosa sono molto soddisfatta. Te, Simone, che dici di Virtuaverse? Giocato, piaciuto? Allora, a me me l'ha regalato Francesco sto gioco, perché è particolarmente innamorato di sto gioco, perché lui poi è un amante puro, insomma, delle avventure grafiche anche tradizionali. Io l'ho iniziato con tutti quanti i, cioè io poi quando vado a ruota per una cosa magari ci gioco veramente le ore di fila, ok? Poi sono arrivato a un punto, tipo dopo quando devi modificare il drone per vincere la gara dei droni, sono andato un altro po' più avanti, poi un giorno ho smesso di giocarci e non sono più andato avanti, cioè non l'ho più riaperto, ci sono ancora installato, cioè nel senso non è che l'ho disinstallato, però sai quelle cose che o sono andato per saturazione, non lo so per quale ragione, perché poi a me visivamente, dal punto di vista stilistico, dal carisma proprio generale dell'atmosfera, i colori, le cose, a me c'è un botto sto gioco, però non lo so perché c'è stato un momento in cui mi sono fermato, tipo vabbè basta per oggi, poi magari due o tre giorni non ci ho giocato per qualche motivo e poi cado lì, quindi ti deluderò in questo. Quindi però non hai più recuperato, poi alla fine non l'ho mai finito, sta lì ancora. Cioè, guarda, se ti capita finiscilo, perché il finale è figo, cioè non è il classico finale deludente o aperto o dici vabbè niente di che, no, il finale è veramente figo veramente gagliardo, il finale mi è piaciuto tantissimo, quindi secondo me è già una motivazione valida per andare avanti, perché il finale rende bene. No, dovrei ricominciarlo da capo, perché io poi sono fatto così, cioè nel senso devo ricominciare, se no non te lo ricordi molto. No, però ti ho detto, stavo in fissa un botto questo gioco, cioè proprio ci ho giocato per un sacco di tempo, poi ho detto sono arrivato a un punto che si vede che mi aveva un po' stressato, non lo so per quale ragione, magari era il momento del labirinto del codice ASCII, non mi ricordo, no, veramente non mi ricordo, mi ricordo che era, cioè dopo quella cosa del drone che mi è rimasta impressa, che tu devi fare la gara per vincere, devi battere i tre bulletti che stavano lì sulla spiaggia, e fatto quello sono andato un po' avanti ancora un pochino con la storia e poi basta, stop. Ciao. dice poi una certa basta. Guarda, a me c'è stata una piccola cosa che, ma ovviamente fatta, cioè messa apposta, però a me, ma insomma, mi è piaciuta. Fra le tante cose della tecnologia che affrontano in questo gioco, una certa, ci sta anche un po' di roba retro, e ci sta un'amiga che loro fanno partire, e tu devi fare un enigma anche nei titoli delle immagini dell'amiga, no? È presente quando c'erano tipo le cheat, che c'erano, sai, tutte quelle righe, eccetera, sì. Che prima c'è il disco dell'amiga, del workbench, e poi ci sono tutte quelle righine, c'era la roba che tu puoi cheatare, no? Che ne so, questa cheat, questo gioco è stato fatto da la cheat in modo che tu non avevi l'originale e anche senza i codici ti funzionavano. E a una certa c'è una cosa così praticamente da affrontare, quindi io capirai, quando ho visto l'amiga ho fatto io non ci ho capito più niente, capito? Quindi anche questa piccola chicca a me comunque è piaciuta, insomma. Beh sì, diciamo che ci sono vari aspetti un po' che richiamano, insomma, la cultura pop degli anni 90, insomma, quindi anche oggetti, no? Come dici dei computer, questo va bene, c'era da spesso, si sapeva un po' che era così. Vabbè, bello comunque, cioè non lo sto né criticando né proprio, non so perché ogni tanto è come quando vi raccontavo oggi di No Man's Sky, a un certo punto io mi spengo, e oppure magari ci ho avuto una questione mia personale che per un periodo di tempo non ho potuto giocare, quindi sai quando perdi il feeling con la cosa, no? Cioè nel senso, o lo finisci, quindi lo dovrò ricominciare prima. Vabbè, o poi ci sta, secondo me anche il periodo, insomma, deve essere anche quello giusto, capito, per affrontare, sì, sì, determinate cose, cioè, era pure un periodo che stavo a giocare tanto, un periodo che stavo a giocare tantissimo, e praticamente come finivo una cosa ne iniziavo un'altra, e forse questo un po' mi aveva, come posso dire, un po' saturato, ecco, magari questo è un po'. Poi pure Francesco mi diceva: no vabbè, ma tanto magari a te non ti piace, allora cioè nel senso, perché non mi piace? Mi piace, cioè nel senso, se no non ci gioco. Poi però evidentemente deve essere successo qualcosa, insomma. Sono quelle cose psicologiche. Vabbè, però magari è una certa, poi sei nel mood giusto, lo recuperi, lo finisci e ci fai sapere, insomma. Sì sì. Ma io neanche gli ultimi due giochi ti so di tanto, eh. Cioè uno proprio non l'ho proprio considerato, perché ho guardato un po' su YouTube, non riuscivo a capire dove voleva andare, insomma. Ok, qual è che non hai considerato? Quello, il primo che manca o il secondo che manca? Il primo che manca. Ah ok, quindi lo saltiamo perché io manco l'ho giocato. Allora parliamo solo dell'ultimo e basta. Vai, parla dell'ultimo. Allora leggiamo un attimo i commenti e poi vediamo l'ultimo gioco. Allora, Francesco dice: basta, devo andare a dormire, mi metto a 2x così finisco prima la puntata. Poi dice: bello Virtuaverse, ma non ci vivrei. Mattia dice: ecco, questo non mi è piaciuto. Colonna sonora ottima, parte molto bene. Da un certo punto in poi mi è presa una noia, ho fatto tanta fatica. Ecco, vedi, magari perché ripeto, sì, l'argomento secondo me può annoiare, quello sì. Io infatti pure ho la stessa sensazione, cioè che tutto il primo punto, cioè tutta la parte che ho fatto fluida, che mi è piaciuta, roba genere, poi qualcosa se deve essere rotto tra me e il gioco, capito? Quindi se no non c'è un motivo per cui, e io ti dico, è difficile che interrompo una cosa e non la porto a termine, anche se mi stracino, però lo faccio, e cioè, succede. E invece a me, vedi, questo mi ha preso proprio tanto. Poi ripeto, soprattutto il finale, stavo lì, oddio che figo, cioè, mi è piaciuto tanto. Quindi Francesco poi dice: dal punto di vista della sceneggiatura e dei personaggi l'ho trovato deboluccio, ma la storia funziona e l'atmosfera è una bomba. Eh sì, l'atmosfera non gli manca assolutamente. Carisma dell'atmosfera c'è tutto, eh. Sì, cioè, sì, sì. Ma secondo me anche la grafica è veramente azzeccata, insomma, questi colori, questi viola, fucsia, belli accesi, no? Secondo me c'è stato cyberpunk vero proprio. Cyberpunk proprio, sì, sì. Poi tu lo vedi, alla fine è molto pixel, no? Però è ricco d'animazione, cioè nel senso, sì, un sacco sì, è fatto di seguito veramente bene. Secondo me è fatto veramente bene. Poi Francesco dice: però davvero troppo autoerotismo sul fatto che sono nerd duri e puri di una volta, che il 486 sì che era un computer, che si stava meglio quando si stava peggio, ma andato a fanculo. Capisci, quello che hanno detto tanti che hanno criticato questo gioco, è che esageratamente nerd nel senso di programmazione, roba di computer troppo dettagliata, che magari una persona come me ci capisce un cazzo, capito? Quindi magari obiettivamente può allappare questa cosa, che è la critica che hanno avuto. Sì, no, che poi c'è questa cosa che dice: no, nel senso, ah, quando c'avamo i 486 era meglio. Cioè, io, questo è un tipo di filosofia, di mentalità che non ci ho mai avuto. Perché non è vero. Allora, ho adorato il periodo dell'Amiga. Cioè, per me il carisma visivo che c'era l'Amiga, forse poche altre. Però non posso dire che era meglio l'Amiga rispetto a quello che ho adesso, capito? Non lo posso dire, è oggettivo questo, non è una questione di sentimentale. Poi dopo è chiaro che, cioè nel senso, uno c'ha un momento di revivalismo, vuoi guardare un po' questa cosa del retro gaming, del retro computing, quello che ti pare, però, cioè... Non era meglio, cioè, no, capito quello che voglio dire? Era il meglio nella sua epoca. Era meglio in quel momento lì, esatto. Certo. Però, in quel momento lì era la cosa migliore che ci fosse, sono d'accordo. Io tuttora amo da morire l'Amiga. Io ho detto, voglio essere seppellita con l'Amiga addosso, capito? Cioè, voglio l'Amiga nella bara con me. E sì, ho deciso questa cosa. L'altro giorno io ho detto a Gabri, mentre stavamo pranzando, io ho fatto, ah, senti, quando muoio voglio che metti l'Amiga con me, così ho detto. E... Bei discorsi. Bei discorsi. E quindi praticamente, cioè, era il meglio che c'era quando è uscito. Io ci sono affezionata tuttora, ma non posso dire che quello è ancora migliore confronto a quello che c'è adesso. Cioè, sarebbe, esatto, una bugia. Questo dico, semplicemente questo. Cioè, quindi quando sento di, capito, queste cose, no? Perché poi fanno tutto sto revivalismo. Cioè, anche a me, cioè, mi piace ogni tanto rivedere l'Amiga, rivedere il Commodore 64. Mi piace perché, cioè, ma perché è una questione mia, psicologica, di legame comunque a quel momento, e perché era comunque bello. Però, cioè, adesso io apro Unreal Engine 5.2 e mi metto a fare comunque le mie progettazioni, le mie cose, e dico, cioè, qua, mica sta roba non la facevo, cioè, non beh, certo. Quindi basta, cioè, il discorso è finito ma lì, più insomma. Che altro è proprio un dato di fatto, insomma, c'è stata un'evoluzione esponenziale della tecnologia, grazie, in questi anni, che è paragonabile, insomma, grazie a Dio, anche insomma. Sì, perché saremmo rimasti lì, insomma, che tristezza, è un po' sì. Poi Francesco dice, no, io innamorato direi proprio di no, del gioco, no? No, vabbè, mi ricordavo così. Poi, ma... Dice, alla fine la scimmia muore, così ha detto. Ah, ok, allora vedi. Poi Mattia, la parte nel paesino sperduto mi ha distrutto tutta l'atmosfera, non sono più riuscita a ribeccarla. Magari tu ti sei fermato anche te, insomma, quando c'è il paesino sperduto, non lo so. Può essere. Poi dice tutta la parte, Francesco dice tutta la parte del locale è bellissima, davvero egregia, sì è vero, i enigmi tutto sommato sono fatti bene a parte i picchi di difficoltà, esatto, un saluto sempre lì al labirinto, il codice asci e vaffanculo all'asci. Sì, ecco, poi questa cosa sempre un po' di richiamo dell'adventure classico, no? Cioè il fatto che a un certo punto ci devono essere cose difficili che però sono sbilanciate, capito? Cioè, nel senso, magari c'è l'enigma tranquillo, poi boh, una cosa insormontabile, cose. Sì, no, io quindi... ti giuro, quello del codice asci, ho perso la pazienza nel farlo. Secondo me, sai che l'enigma si è superato da solo per paura. Sì, sì, no, io penso, non mi sa che non ho barato, mi sa che una certa a culo, ce l'ho fatta non so come dopo ore che registravo, cioè una cosa che veramente stavo per spaccare tutto. E questo. Poi Lili è tornata, siamo arrivati al 2020, nel mentre abbiamo quasi finito. Poi Mattia dice, ma non per l'argomento, sono programmatore o forse proprio per quello? Ah, sei programmatore, Mattia, proprio per quello, quindi forse, ecco, già lui è programmatore, poi qua si mettono a parlare di queste cose e dice, vaffanculo. Può essere. E Francesco dice, non tanto il fatto che è nerd, è che è troppo autoreferenziale ed elitarista. Eh sì, il fatto che dicevamo, no? Quello era meglio, all'epoca quello lì era meglio. Eh sì, sotto quel punto di vista, sì. Però ripeto, a me è piaciuto veramente tanto questo gioco. Ok, vediamo l'ultimo al volo, ragazzi, e poi andiamo tutti a Ninna. Lasciamo andare a Ninna anche il buon Simone Vizzi. Ci ricordiamo, domattina alle 7 c'è la live. E quindi, insomma, ti mando a dormire. No, ma tranquilla, cioè, non so uno che. Cioè, vado a dormire quando mi capita e mi sveglio quando devo svegliarmi, quindi non c'è un problema. Ok. Comunque, vediamo al volo l'ultimo. Ho tagliato poco questa sera, dai, alla fine non ho tagliato tantissime cose. E io bello perché gli avevo detto a Simone oppure che questa sera sono pochi i giochi. E quindi Rocky, questo qui pure l'abbiamo giocato sempre tutto sul canale. Questa è un'avventura molto molto carina, pure questa secondo me cagata da pochi, onestamente. carino, bellissimo, a me è piaciuto molto lo stile, sempre un po' minimal, come potete vedere insomma la grafica non è dettagliatissima, però molto carina. Sono questa storia nordica di questi due fratelli, dove il fratellino di lei viene rapito da una sorta di entità malefica e lei deve fare un viaggio infinito in queste terre ghiacciate per riuscire a cercare di salvare il fratello. Incontra strani esseri, come potete vedere qui, dai troll a mega rane giganti, e ci sono dei tre sorta di divinità, non mi ricordo che cos'erano, che vanno risvegliate, e grazie a loro poi possiamo riuscire ad avere la potere, insomma, per poter salvare nostro fratello. Quindi è questo viaggio di questa ragazza che si fa veramente i chilometri qui congelata nella neve, un sacco di scale, se fa sta poraccia. E quindi questa, più che un'avventura classica, è un'avventura che però in verità poi ha anche una sorta di puzzle, perché ci sono tanti piccoli puzzle da fare, vai avanti e indietro nei vari paesaggi, prendi degli oggetti che poi, ecco, questo è il nemico, questa qua Rorca si chiama, ci sono vari oggetti che poi devi utilizzare in altre parti. Quindi è tra un mix fra un'avventura e un puzzle game, però molto gradevole. L'unica cosa che un po' mi ha fatto storcere il naso è che è un po' lungo, perché se questo gioco, se durava un paio d'ore in meno, secondo me era meglio. Verso la fine, secondo me, hanno fatto il contrario del classico, ossia che tagliano corto perché hanno finito i soldi, no? In verità la parte finale, secondo me, è un po' troppo allungata, cioè quando lei arriva al castello, c'è una zona che è un castello, lì ci ho fatto un paio di video interi, due o tre video, non so, è stato lunghissimo verso la parte finale, quindi secondo me si perde un po' lì. Però molto interessante l'ambientazione nordica, queste sorte di divinità, queste mitologie, insomma, queste leggende e creature delle parti del nord che magari conosciamo di meno. E quindi è stata interessante, anche il finale molto carino. Io questa la consiglio anche ai più giovani, onestamente. Questo, secondo me, è un gioco che va bene anche per chi si vuole avvicinare, sai, al mondo delle avventure, perché è molto gradevole, non è molto difficile, bisogna usare la testa in determinati enigmi, perché ripeto, ci sono degli elementi puzzle, quindi va usata comunque il ragionamento. Però veramente molto molto carina, io questa ve la consiglio. Ecco, questa è una delle divinità che vanno risvegliate, che ci possono poi ad aiutare ad affrontare il nemico finale, no? E quindi è stata molto interessante. Mi dispiace che sia stata, onestamente, almeno sempre qua in Italia, parlo, io non so poi all'estero come vadano queste cose, però almeno qui mi sembra abbastanza snobbata come avventura, e invece molto gradevole. Te, Simone, questa la conosci, giocata? La conosco e ce l'ho in wishlist da tanto tempo, cioè nel senso che è una di quelle che volevo giocare, che poi ancora purtroppo non sono riuscito a giocare, però lo farò sicuramente, perché mi ha sempre affascinato, devo dire, mi piace proprio l'atmosfera, mi ha sempre attirato questa cosa. Poi insomma, io so anche, mi piacciono queste cose nordiche, no? Però poi, tra l'altro, facevo una riflessione su quello che dicevi sul finale, è che giustamente questi, mentre che stavano a fare sto gioco, oh dai ragazzi, abbiamo finito, e esce fuori uno, dice, come abbiamo finito? Qui ci sono avanzati $100,000, che famo? E allora allunghiamo. Vai, allunga, capito? Infatti è il contrario, secondo me, del 99% dei giochi che tagliano alla fine. Si è dilungato un botto nel finale, infatti dico, una certa dice, ho capito, fammi finire sto gioco. A canna, una certa canna, avevamo capito, taglia. E invece, sì, secondo me durava un paio d'ore di meno ed era perfetto. Bene, bello. Sì, comunque ce l'ho, dai, nel senso, lo giocherò presto. Poi quando lo giocherò scriverò sul canale Telegram di Pixel Deb, dove noi vi aspettiamo, perché parliamo tutti i giorni di tutti i generi di videogiochi, non solo di avventure. E soprattutto, che ne so, questo sta in sconto, piatelo, c'è il bundle questo qui, oggi, esatto. Oggi è uscito Gollum, lo stanno smerdando tutti, e cose del genere, insomma. Poveraccio. Ma povero Gollum. Tra l'altro è appena iniziato i super saldi su Epic Store, se vi interessa. giusto? Esatto, vi ho anche condiviso prima il gioco che regala Epic questa settimana, ossia Fallout New Vegas, quindi siete sempre aggiornatissimi su Telegram e vi aspettiamo su Telegram. Fallout New Vegas non me lo prendo perché ce l'ho in 60 versioni diverse, quindi io ce l'ho in 60 versioni diverse, ma tutto ciò che è regalato è sempre buono e l'ho preso anche lì su Epic. Ok, nel dubbio non so dove giocarlo. Nel dubbio lo prendo comunque. Cioè, sono passati un po' di annetti. Da io non l'ho mai giocato, però. Quindi è il più ruolistico di quelli della nuova generazione. Cioè, sono proprio meccaniche da gioco di ruolo più hardcore. Insomma, però. Vabbè, dai, comunque. Comunque, questo qui è in italiano, quindi neanche lo sbattimento di sta a tradurre, insomma. Tu hai detto Rocky, no? Poi mi è venuto in mente Rocky Balboa, no? Adriana. Sì, sì, infatti quando uno pensa a Rocky sicuramente pensa a quello, però no, qua non c'è sta, diciamo, la ragazzina non è così forte. Cioè, non secondo me c'ha dei polpacci invidiabili perché, ripeto, oltre se fai mega camminate, se fa sempre le scale. Scale proprio, ma proprio lunghe, quindi ti pensavo poraccia sta fia. I polpacci alla Sebino Nera, si diceva una volta. Comunque. Cioè. Sì, secondo me si dice Rookie. Rookie. Eh sì, esatto. C'hai due puntini sulla O, quindi sarà una sorta di Rookie. Rookie, così, perché poi hanno questa lingua molto delicata, no? Gli scandinavi. Sì, okay. Facilissima, soprattutto il finlandese, ancora di più secondo me, confronto alle altre, però. Esatto. Una è più facile dell'altra. Comunque, leggiamo un attimo al volo. Simone dice: viva l'infanzia così de botto, probabilmente sempre collegata a Virtuaverse. Adora Rookie, gli è piaciuto. La mitologia nordica è meravigliosa, dice Simone. Frankie invece ci sta la buonanotte. Grazie, notte Frankie, anche a te. Grazie di essere stato qui. Mi conferma che erano divinità quelle che svegliamo, ok. Mattia dice: carino Rocky, un bel mix tra elementi più classici e un'impostazione più moderna. Lily dice: comunque il gioco sarebbe fantastico, mai quanto il giapponese però, dice Simone, nella difficoltà. Va bene ragazzi, allora è stato veramente molto interessante secondo me fare queste serate, perché come vi ho detto poco fa, insomma, abbiamo visto in questi 20 anni una prima involuzione secondo me e poi una grande evoluzione delle avventure, quindi vedremo poi che cosa ci aspetta insomma negli anni che verranno. In questo 2022-2023 secondo me stiamo continuando insomma questo mood di questi ultimi anni che abbiamo visto qui insomma insieme, alla fine più o meno. Di novità c'è la intelligenza artificiale che addirittura sta creando dei giochi, tipo in qualche settimana fa, nelle uscite della settimana, avevo condiviso un gioco che è uscito qui su Steam, di un'avventura tipo libro game creata completamente dall'intelligenza artificiale, la parte grafica, che Simone infatti te l'avevi anche condivisa pure sui tuoi di Telegram, ti ricordi che ti aveva colpito questa no, cosa? Più che altro penso che sia tipo una visual novel, non ho ben capito. Sì, però è una sì, sorta comunque di libro game mi sembra, che però tutta la parte grafica era stata fatta dall'intelligenza artificiale, quindi diciamo secondo me la differenza adesso è dovuta all'intelligenza artificiale che sta facendo dei progressi importanti insomma nella parte tecnologica della questione videogiochi, e quindi il cambiamento che c'è in questo momento secondo me è soprattutto quello. Poi dal punto di vista innovativo mi sa che al momento non ci sono state grandi innovazioni in confronto al 2020, no? Sì, ma in realtà a noi ci piacerebbe, ci basterebbe anche avere una buona scrittura nelle storie narrative, comunque nelle avventure, perché cioè sì, allora non voglio fare un discorso. Per me qualsiasi tipo di evoluzione e di sperimentazione è sempre ben accetta, lo vedete, poi alla fine abbiamo fatto anche noi la sperimentazione e continueremo a farle. Però insomma alla fine mi auspico sempre più un buon autore che viene e mi scrive una buona storia piuttosto che un'intelligenza artificiale che fa dei testi a cazzo, cioè, scusate. Però sì, sono d'accordo. Questo è un po' il discorso, perché poi alla fine abbiamo visto pure noi, no? Che se tu gli dici: ah, io sto nel sotterraneo, apro la finestra per vedere il sole, lui: beh, tu apri la finestra e vince. No, c'è qualcosa che non va in questa cosa, insomma. No, perché altro c'è una tendina nello scantinato, sì. E lui ci mette la tendina nello scantinato, perché io ho deciso che c'era la tendina nello scantinato, insomma, questo è la cosa un po' così discutibile. Con la scatola dei fusibili ancora peggio, insomma. Ah, se non sbaglio era questo. The Secret of Dark Woods. No, non era questo. No, non era questo. No. C'avevo l'illustrazione a tutto schermo. Perché c'è la... Ah no, è questo. Questo qua. Traveler the Eye Story. Quindi questo qui praticamente tutta la parte grafica è stata fatta dall'intelligenza artificiale, quindi... Secondo me adesso l'innovazione di questo periodo è questa, ossia i giochi che si fanno da soli praticamente. Quindi questa è l'innovazione attuale, secondo me è questa al momento. Ma la vedremo più avanti, insomma, questa la vedremo più avanti. Poi proveremo tutto, vediamo di che si tratta. Insomma. Ah, certo, noi dobbiamo indagare un po' per vedere queste evoluzioni delle avventure e dei videogiochi in generale. Comunque, col buon Simone Pizzi io ho già accennato insomma al fatto che invece adesso vorrei tornare indietro, ossia fare il mio decennio preferito delle avventure, quindi dal 90 al 99. E quindi a te andrebbe bene? Quello è il super decennio. È il decennio delle avventure. Delle avventure proprio classiche, cioè lì è successo di tutto, anzi... È tutto non partito da lì, ma si è tutto evoluto da lì, insomma. E quindi forse converrebbe fare anche lì un paio di serate, tipo dal 90 al 95, dal 96 al 99, che ne so, tipo così. Cioè, mi sa sì, che conviene perché, dividerlo in questo modo. Sì, anche perché se vuoi un suggerimento come spunto, secondo me i titoli possono essere esemplificativi di un discorso, ma lì è proprio, secondo me, più un discorso da fare nell'insieme, anche se poi alla fine, cioè nel senso, lì i titoli sono talmente tanti, veramente tanti, che è difficile pure riuscire a fare una cernita, bisognerebbe andare un po', come posso dire, anche a gusto personale, no? Però ci sono delle pietre miliari che sono rappresentative, che vanno inserite, insomma. Sì, secondo me sarà una bella... Secondo me quel decennio sarà veramente interessante, perché col violino, tutti con la musica al violino triste, no, dei fazzoletti a fianco, un po' le lacrime, capito, quanti ricordi. E la cosa bella è che anche un'altra persona, che però non dico, pare che parteciperà, mi ha dato l'ok ed è molto contento, anzi mi ha detto spero di essere all'altezza, perché io ho detto ma tu, cioè io tra te e Simone quella più ignorante sono io assolutamente, quindi cioè voi sarete gli esperti e quindi sarà interessante se partecipa anche quest'altro espertone, perché insomma ne sa tanto anche lui di avventure grafiche anni 90 poi anche, quindi sarà interessante. Quindi io vi ringrazio a tutti di aver seguito anche questo evento, spero vi sia piaciuto insomma vivere queste avventure dal 2000 al 2020, vedere un po' questa storia di queste avventure, tutto quello che abbiamo vissuto in questi 20 anni, e che anche insomma abbiate scoperto dei titoli che non conoscete per recuperarli poi magari e viverli poi voi e farci sapere che cosa ne pensate di questi giochi che magari avete saltato. E ringrazio soprattutto Simone di essere stato qui con me anche oggi, è sempre bello averti qui e condividere insomma la serata avventure insieme, è molto bello. Grazie a te, perché come ti ho detto l'altra volta è tanto che non parlo di cose come queste che mi piacciono, quindi mi fa sempre piacere. Bene, grazie veramente di cuore. E quindi niente ragazzi, preparatevi che a breve arriverà l'evento anni 90 con l'altro super ospite, quindi vi auguro una buona notte e ci si becca alla prossima, e grazie ancora a Simone. Ciao belli. Grazie per averci seguito. Per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte.